detto che a maggio praticamente non ci sarebbe stato. Questa è la diretta. Allora, amici, prima che Arci vada a dormire tra 5 minuti, benvenuti alla Maledizione di Katta, episodio 73, che spero di aver scritto correttamente. Siamo i soliti, Tycoons & Dragons, RGDR, sapete dove ci potete seguire. Vediamo se ho messo la Maledizione di Katta, sì, è corretto. Edoardo Saladini non sarà con noi, stavamo facendo un po' la conta, ma gli altri sì, quindi... Io ci sono, Andrea Giacomo Vecchi. Abbiamo Francesco Arcidiacono che ritorna alla grande, fino a che non se ne andrà, alla grande sempre però. Il nostro master Rio Catabriga, Mister Sfortuna Marco Bosi, Giulio Bosi e Stefano Gamberoni, che guarda dall'altra parte, quindi avrà sicuramente qualcosa di più interessante da guardare. Se anche voi siete fan dell'Eurovision, non ci interessa, ma potete votare la migliore canzone di Tycoons & Dragons. E RGDR... Odio tutti gli umani... Comunque... Tra parentesi, un'ultima ora così, Damiano è negativo a tutti. Sì, l'ho letto. Quindi grande delusione. No, grande palo in faccia per i francesi, quindi molto bello. Ma non ho capito, speravano, vabbè, di... speravano di espellere. Praticamente c'è un'immagine in cui lui si china, ma secondo me è tipo solo per esultare così e sembra che stia sniffando, in realtà non è vero. No, no, si vede, viene inoltrato l'immagine in cui si vede cosa sta facendo. In realtà è una cocchina così pura che riesce a scappare, cioè, anche si sta facendo un pompino. Plausibile, visto che lo fa anche Harry Cavill, non vedo perché non femme. Non il pompino, ma ovviamente. Sì, no, non il pompino. Era il la classica posa di chi dipinge una miniatura. Bene. Posso vederlo qui? No. Stream in pausa. Va bene, episodio 73, l'abbiamo detto, vi ho perso, molto bene, vi sto riguadagnando? No, vi ho perso. Mastericon ha ridotto icona alla propria applicazione, un po' di pazienza, sì, ma Mastericon è anche esploso insieme a tutti gli altri. O forse sono esploso io, ma chi può dirlo? Proviamo a fare una mossa di questo tipo. Cari amici, questi sono il bello della diretta che parte subito alla grande e in attesa di recuperare il collegamento con i nostri amici che comunque insomma anche loro hanno un ruolo in questa campagna, anche se minoritario rispetto al mio, come ben sapete. Quello di Vardistan infatti è il personaggio principale, anche più amato dagli ascoltatori, grazie per averlo votato, anche se non ho controllato se è stato effettivamente votato, ma sicuramente l'avete fatto. In questo monologo vi potrei annunciare nuovi articoli del nostro podcast, ma la verità è che non ce ne sono, perché sono in attesa che i nostri ragazzi ce li producano, ma non dovete per questo motivo perdere la speranza. Io ci sto provando, per esempio, a non perderla. Allora, non posso neanche comunicare con loro perché il mio cellulare è esploso, quindi vediamo un po' cosa si potrebbe fare. Si potrebbe chiudere la chiamata, non visualizzare. Cosa gli vogliamo dare a questa chiamata? La faccina così, comanda chiamata male, proviamo a richiamarli, proviamo a richiamarli, ma la situazione vedo che è la stessa e questo è un problema indubbiamente, questo è un problema non da poco. Non vi posso neanche mandare una scaletta, per così dire, una qualche forma, diciamo, di... Oh, cavolo. Comunque diamo... Speriamo insomma di recuperare. Mentre la situazione continua a essere critica, vediamo un po' di vedere un po' la situazione sostanzialmente. Da quello che ricordo, ormai arrivati al castello di Strand e nell'ultima sessione abbiamo per lo più charlato di come recuperare le mani grazie all'angelo. E poi avevamo incontrato anche un altro personaggio, però non mi ricordo. Allora, aspetta che forse Arci lo riprendiamo. Rivedo l'immagine. Attiva la webcam, disattivala. No, Arci è semplicemente così, ma non... La situazione è molto disagevole. Tra l'altro, credo anche che abbiamo qualche visualizzazione in questo momento. Ciao Vez, ecco, Katta mi scrive. Allora, vediamo di comunicare in qualche modo. Allora, sono solo io l'esploso. Bene. Questa è una brutta cosa. Proviamo a fare così. Allora. Visualizza livelli e benefici. Disconnette. Non saprei cosa fare, però. Vediamo se è un problema. Cioè, di diretta sembra che stia andando, quindi. Pare di sì, questo funziona. Quindi è un problema del mio Discord che non saprei come fare. Allora, impostazione. Allora, proviamo a chiuderlo proprio. Proviamo a chiuderlo brutalmente. Chiudiamo. Che vedete, doveva essere l'immagine che aveva preparato Sceo per oggi, ma mi è esploso anche il telefono, come potete vedere, è un ottimo momento a livello di connessione. Vediamo un po'. Eccoci. Ok. Eccolo, eccolo. Quindi ero solo io l'esploso, bene. Beh, però Sì, c'è stato era molto divertente. un bellissimo monologo da parte mia. Credo che l'abbia fatto. All'inizio non capivamo, siamo dovuti andare a guardare la diretta. Sì, tra l'altro non potevo comunicare con voi, quindi praticamente c'è stata una serie di un bel monologo di tipo 5 minuti. Va bene, dai, partite, abbiate pazienza se l'avete fatto tra di voi, ma partite con il riassunto e risparatemi la No, ti musica. abbiamo aspettato, guardavamo Abbiamo te già fatto parlare. Vezzi riassunto. Vabbè, Vabbè, ho capito, Arci. Allora esci un attimo e ti richiamiamo quando è Catta, finito. Vai, fallo tu qual è la allora, Arci, il vostra... riassunto. Ci siamo? Ripeti quello che ci hai appena Cos'è detto, visto che sei così preparato. roleplaying? Qual è la cos'hai macchina? chiesto? Ah, Tu siete che mappa in... siamo? Che Te lo dico siamo? Main subito. floor? Si chiama... Sì. AC, Main Main floor Floor. C. Devo chiedertelo in quei 20 minuti persi, Chi è? ovviamente. No, beh, adesso non esageriamo, dai, sono stati 5 minuti. No, no, sto scherzando. E dai, un bel riassunto. Giulio. Ok, dai, Marco, provo io. Marco, sorpresa, prova Marco, vai. Una sorpresa. Vediamo, poi vi inserite nei buchi. Allora, abbiamo iniziato con l'invito che ci è stato mandato dal pipistrello di Strad. Mentre c'era questo invito al matrimonio, una tempesta di pipistrelli è andata in giro per le case dei nobili della nostra cittadina, invitando tutta la gente che aveva un qualche rilievo. Poi abbiamo deciso sul da farsi, se ci andavamo, se non ci andavamo con le mani, ci andavamo senza mani. Ed è uscito che ci andiamo senza mani, nella speranza che Che non servono. l'angelo bambino, che a quanto pare può farne ricrescere a tutti noi, non venga corrotto nello scontro finale. Vero. Quindi abbiamo deciso di andare, siamo entrati alcuni nella carrozza, alcuni a piedi, credo io e Vardy stasi abbiamo preso la carrozza. No, io non sono veramente eravamo tu? Io mi ero fatto il cartello. Ero io. Sì, è vero. E qualcuno che ha salito con me. Mi sono dimenticato di fartelo al tuo compleanno, dove volevo prendere un pezzo di cartone. Dovevo fare quel cavolo. Beh, c'è tempo. Vettius, Vardistan, si è preparato il cartello dello sconfitto con il morale a terra. Siamo arrivati al castello di strada. Sa col sangue, tipo l'ho fatto. Sì. Dove l'hai preso non lo so, perché ormai. Quello. C'è sempre del sangue. Siamo arrivati a una di strada dove ci è stato detto di giurin giurello non alzare la mano contro strada mentre siamo invitati, quindi non, niente male ci sarà fatto e noi non dovremo fare alcunché. Al che qualcuno ha fallito a mentire e ci hanno preso tutte le armi. Quindi adesso siamo senza mani, senza armi. Le armi le avremmo fatto comunque. No, le armi le avrebbero prese comunque. La probabilmente. Le abbiamo date a qualcuno. Siamo entrati e ha detto dovete lasciare le armi. Allora, aspetta. Alcuni di noi hanno deciso di lasciare le proprie armi principali ai corvi. Sì, dopo che abbiamo scoperto che ci toglieva le armi, alcuni di noi hanno deciso di lasciarle retroattivamente alla gente che aspettava fuori. Tipico delle campagne di catta, il retroattivo. Sa che non avevamo capito che c'era qualcuno che rimaneva fuori. E quindi i corvi, gli altri invitati sono ancora fuori, siamo andati noi. Quelli che avevano le armi sono state tolte, sono state portate per un corridoio a un piano inferiore. Noi siamo lì, nell'ingresso. A fare comunella con gli altri ospiti. Con Radi, che credo sia ancora lì vicino, ma che stava andando via. E poi abbiamo incontrato qualcuno, tipo uno servitore, che era tipo un mongrel. Ah sì, quello all'entrata che ci ha dato il benvenuto. Cyrus. Poi avete visto un po' di gente. Sì, c'erano i Vistani. I Vistani. Esatto. Sì, c'è un po' tutta Barovia. La Barovia che conta è a questo evento. Esatto. Quanto è vero. E niente, ci mancano 87 stanze da visitare, quindi ho cominciato il giretto. Quindi adesso il piano esattamente è andare col tempo e vedere se c'è un'apertura. In teoria ci sarà, cioè al momento giusto ci darà le mani. Sì, ma noi non è che dobbiamo trovare cose in realtà. No? Prenderemo a schiaffi strada, quindi il piano come è questo. No? Come non dovete noi trovare cose, tutto quello che mi ha detto l'altro. Aspettiamo un attimo. Cosa ha detto? Sì, noi dobbiamo andare su alla cima della torre e liberarlo dalla magica bula, però lui prima ci dà le mani. Prima ci deve dare le mani o dopo? Meglio prima. Ma era molto reticente. No, mi piace fare le cose difficili. Lui era reticente. Ma esplorare quello di strada senza mani mi sembra eccessivo. No, non è che era reticente, però aveva detto sì, esatto, lo facciamo darci una mano più tardi possibile. Dai, una volta entrati. Sì, esatto. In modo da farmi vedere adesso come docili agnellini sconfitti e vinti dal con tanto di biascheria per alcuni. Secondo me il momento migliore è vicino al matrimonio. Cioè vicino alla celebrazione, al momento della celebrazione. Quindi noi dobbiamo trovare sta torre. Beh, trovare è abbastanza facile. Una specie di grattacielo. Dobbiamo in qualche modo entrare in una situazione in cui abbiamo di nuovo delle armi farci strada nella torre. Esatto. l'ultima cosa che vi aveva detto Radin prima della fine della sessione era: il conte vorrebbe scambiare due parole con voi. Ma con i corvi, scusa, prima di scambiarsi due parole, quindi come siamo rimasti per recuperare ste armi? In realtà non c'è un modo. Quelli importanti sono dentro con voi. Martinko vi ha detto che ha lasciato fuori, trasformati sotto nella loro forma corvina, degli altri suoi sgherri e aiutanti, in modo che uno, in caso di necessità, possa intervenire, due, se c'è appunto un'apertura, se si trova un modo di comunicare all'esterno, possono arrivare volando. Come possiamo comunicare con loro? Tramite Martinko? Loro sono fuori che pattugliano il perimetro, quindi trovare un modo. Tipo, che ne so, se andiamo su una terrazza ci si fa vedere, questi arrivano. Magari visto che stiamo andando sulla torre più alta, magari. Posso. Casualmente, una delle poche magie che posso fare è luce, quindi segnaletto luminoso sì, lo si può fare. Ma abbiamo mille famiglie comunque. Anche. Alfabeto morto. Li abbiamo. Vuoi mandare l'alci? Va bene. Io non ce l'ho ovviamente, ma il gufo di sfortuna penso sì, no? Anche credo che mi servano le mani per evocarlo. Perché è morto? No, però. Vabbè, intanto che ci pensate, vado a pisciare. Entrare dentro con il gufo non so se funziona. Credo che sia meglio se mi segue, se arriva dopo. Vedo il problema. Ehi, sono un matrimonio, ho un gufo sotto il cappotto, fatemi entrare. Beh, quello è tipico dello stregone, però. È il tuo famiglio. Cioè, per dire, Ray sicuramente ce l'ha il tuo pipistrello, non è che l'ha lasciato a casa nella gabbietta. Beh, te lo porti sulla spalla, Ma no, ma c'è davvero lo stregone ce lo tiene tipo dentro nella tasca, cioè. Facciamo che ce l'ho nel cappotto, allora. Cioè, proprio dentro così. Ma non glielo tolgono, cioè, va bene. Beh, tanto non morto, cioè mica è un animale non morto, cioè. Arci è già non morto, guardatelo. Oddio, la sofferenza, ragazzi. Abbiamo perso un fratello. Marco. Oddio. Eccolo. Chi è quello? Stiamo prendendo gente. Oh, grazie. Chi è che l'ha spento? Io, perché era già da un po' che sta andando male. Abbiamo perso il master, abbiamo perso a un certo Arci. Punto comunque chi ci sono? No, Arci c'è, semplicemente sta dormendo. Esatto. Quando mi scrivono su WhatsApp mi toglie il video. Manca solo Katta, ma perché lo stia cercando? Sta pisciando, Katta ha detto. Non sta cercando. Perché non ci abbia parlato con me. La maglietta non ce l'hai mai. No, vabbè, magari ha bisogno un po' per trovare, però, cioè, quello sta. Com'è andata, Katta? Dillo in diretta, dillo a lui. Abbastanza bene. Purtroppo, però, avendo mangiato asparagi, c'è da pagare. Non benissimo. Katta, quando Katta si riascolterà la puntata, sentirà cosa ho detto. Va bene. No, parlavamo dei famigli e, vabbè, lo può tenere il famiglio Marco nel cappotto. Certo, ottimo. Come tipo accompagnatore, tipo il cane per i ciechi. No, so più uno, può tenere anche fuori al cappotto. Cioè. Potete portare più uno. Io un gufo, e non posso avere l'alce. Io un alce. La puoi avere nella stalla. Quella purtroppo. Non ti preoccupare, Katta, no, la povera alce. Neanche se la veste un po' elegante. No, l'alce ha fatto il suo. Vuoi mettere? Viene un cartello più grande con scritto sconfitto sull'alce. Io mi sono chiesto se c'era anche la bambina. Sì, che c'è. Stani, il genitore. Allora vado a salutare. Arabella, di Selma li avevate visti? Sia Bluto, non Bluto. E col padre mi ho salutato, ma la bambina no, ci tenevo. Sì, adesso che non ho gli occhi. E le mani è tutta ghindata perché sparà quella che, come si dice, la damigella, insomma, la bambina, quella che porta le fedi, oppure il lo strascico della sposa. Comunque c'era anche il costruttore di bare, tipo, e era in un angolino e l'avevi salutato. Sì, gli avevo fatto gli artigiani della barocca. Ah, cazzo, io ho ancora la scimmia. Chi? Ma tu hai ancora la scimmia? Non so come sia sopravvissuta fino ad adesso. Ma hai ancora la scimmia. Oddio. Ok, che è successo, un altro problema tecnico. Okay. Ratta di problemi tecnici. Saluto la mia. Dove possiamo andare da Strand? Dai, andiamo da Strad. Senti anche che cazzo ci dice. Ciao. Beh, ha detto saluto la bambina. Comunque sì, la bambina è felice di vedervi da lontano quando vi scorge, poi quando vi avvicinate è un po' titubante, un po' intimorita dal vostro nuovo aspetto. Però nonostante questo vi ricorda con affetto, perché dopo tutto gli avete salvato la vita. Alla fine sono uguale a prima, semplicemente non ho i bulbi oculari, cioè potevo ancora avere la faccia da cane e anche, nel senso, poteva andare peggio. Ma sì, la bambina è pignola, ci mancano gli occhi, le mani, i denti. Vabbè, che fa? Sfortuna, la bambina non l'ha mai vista. Quindi... Ne potremmo aprire un circo, comunque è finito tutto. Ma... tu che ti avvicini alla bambina, tutto normale. Uomo senza occhi. Oh, l'ho salvata, questa qui. Ecco, voi, esatto, quello che si trasforma in un serpente. Ed è vissuta per raccontare, incredibile. Vabbè, è il serpente di quella molla. I cartoni animati insegnano il contrario, ma vabbè. Poi in realtà ha salvato anche Ilia. Certo, prima l'ho ucciso, ma poi l'ha salvato. È vero. Poi l'ho due volte, no, forse solo. Ho perso il conto. Ok, va bene, saluti l'Arabella e poi vi appropinquiate alla sala del banchetto, quella con l'organo, dove qualcuno di voi c'era già stato la prima volta che siete venuti qua, che è proprio qui di fianco. Passate di fianco a quella che dovrebbe essere la scala dove hanno portato sotto al piano di sotto, insomma, nei piani inferiori, le vostre armi. E tu avevi fatto un investigation per capire dove avevano portato le armi. E hai notato che il percorso, i passi che fanno questi qua, lasciano delle impronte bagnate. Quindi si vedono queste orme ad andare e venire, che uno dice vabbè, forse perché fuori piove, ma quelle che ci sono in direzione dal basso verso l'alto, quindi a salire, sono proprio fradice, cioè vuol dire che sono stati a mollo, non è solo l'acqua piovana che può fare un bagnato del genere. Dal modellino che ho accuratamente ispezionato prima di distruggerlo in mille pezzi, esatto. Sì. Possiamo intuire, o lui può intuire. Scusa, allora se l'ha notato solo lui, non te lo chiedo io, ma se lo chiede lui, esatto. Dal modellino può capire quale zona bagnata. Forse. Quello è un'intuizione che puoi fare. Speculando, perché no, chiaramente... Ho capito, questi che lasciano le tracce sono, scusa? Proprio sono dei non morti, dei Wight, che vengono comandati da Radin, che sono quelli a cui ha detto di portare via le vostre armi. Sì, chiaramente nel modellino che hai dissezionato non c'era una piscina. No, una però che senso ha che... No, cioè, praticamente... quello che capiamo è una festa, le armi, il costume non l'hai portato, sì, sono andati mi sono messo una maschera di peli, sono andati a portare le armi e sono tornati fradici, quindi dove hanno portato le armi è bagnato verosimilmente. Beh, sarà anche sotterraneo per la festa, non credo che abbiano messo le armi al centro della festa, nel modellino che hai visto chiaramente non c'era Vabbè, piscina, sarà comunque so. Nei sotterranei, se c'è dell'acqua sarà esatto. Dove può esserci una poi palla. Supporre che ci sia una zona allagata nei sotterranei, questo è una piscina, cioè è una costruzione recente, oppure questa è un'altra spiegazione, magari abusiva nel modellino non l'ha messo. Esatto, quello era per non pagare le tasse nel catasto, oppure per divertirsi a tornare su si sono fatti dei gavettoni, non possiamo saperlo. Esatto. Hai ragione, non oppure essendo dei mezzi animali loro possono ancora, noi no. Le opzioni sono varie, in effetti. Vabbè, comunque cerchiamo l'acqua e quindi troviamo le armi, questo è il concetto. Quindi basta avere una bacchetta da rabdomante e delle mani per poterla gestire. Oppure anche seguire a ritroso le loro tracce. Certo. Ci lasciano. Allora, il momento sarà giusto, sarebbe adesso. Sì, però quello che dovrebbe farlo non è qui con noi. Esatto. Beh, lo lascereste andare da solo. Beh, però lo potrebbe fare il famiglio di Marco. Pensate che possa sopravvivere? Cosa? A seguire non è morto. Non è già, già non è sopravvissuto, Marco. Ma io ho una domanda, cioè, torniamo proprio all'apice, all'inizio di questa avventura. Perché hai scelto l'alce? È figo l'alce. Che sì. Ah, ok. Perché lui può scegliere una cavalcatura. Figo, ma io in realtà volendo potrei fare, cioè non è che devo fare sempre lo stesso, eh. È flavor. E poi scegliere. Cioè io volendo adesso tipo potrei fare come catta, fare il cagnetto di merda, il cagnetto mi segue e mi dà il più uno. Cioè mi dà il vantaggio. Un cammello, credo. E sì, mi fai entrare, l'alce non me la fa entrare, ma il cammello sì, cos'è? Tipo la vendetta della campagna di Giulio, che cos'è? Ho in l'ex con i cammelli, quindi non mi fai il cammello che puoi farlo. No, beh, qua ci stava l'alce. Passa anche dalla cruna. Era una gran figata, solo che catta dopo un po' ti fa anche perdere un po' la voglia. Però vabbè, nei posti chiusi ovviamente non ci può stare l'alce. Vabbè, quello qui ci no, sta. Qui no quello ci sta, infatti. È già tanto che fanno entrare alcuni di noi. No, ma infatti non ho protestato, assolutamente ci sta. Arsi si allena nelle sue pose, sbadigliando. Cosa? Ancora non sono iniziate le iscrizioni, Arci. Esatto. Come no? Vabbè, secondo me o tipo sfortuna manda il gufo a cercarle oppure usiamo un escamotage per andare a cercarle, qualcuno di noi va a vedere dove portano queste tracce bagnate, perché il momento ma in questa piscina olimpionica non ci sarà tipo un qualche mostro marino? Ma non deve andare a prendere le armi, solo vedere dove arrivano queste tracce, Marco. Adesso tanto dobbiamo andare da strada, quindi andiamo da strada. Anche perché magari ci sono delle armi magiche di qualcun altro invitato, potrebbe essere interessante. Ma infatti la mossa assolutamente quella, tipo andare a... No, notate che le altre persone sono state disarmate. La domanda che stavo facendo. Vabbè, ma scusa, allora... Che vi è stato riservato. Allora chi se ne frega? Cioè io prendo due spade non da altri... Non sono disarmati gli altri? Quelli, le persone tipo i vistani, no, chiaramente. Qualcuno ha un'armatura a mezzo quello battuta. Perché ha le loro armi le avranno anche lasciate, ma ne avranno rubate delle altre. Che discorso è? qualcuno in mezzo armatura radio, cioè tipo Martin cova le armi, cioè tipo no, va lì e fa: ah, bella spada! Sì, guarda, è molto tagliente. E noi, tipo, ehi, voi che non avete le mani, che cosa state pensando di fare con quelle armi? Aspetta, domanda non ancora. Ancora migliore, mentre noi andiamo e giriamo le stanze del castello, anche perché dobbiamo andare a parlare con Strad, non c'è in questo castello la classica armatura appoggiata sul piedistallo? Sei sicuro di voler interagire vero, con l'armatura di questo Giulio castello? Armatura completa. No. Ricorda quella che doveva essere la one shot. No. Non saranno tutte, non saranno, beh, però le abbiamo tutte battute comunque, e adesso siamo più forti. Sì, ma non eravamo nel castello di Strada. Va bene, dai, andiamo a parlare con Strada. Avevate le mani. Va bene. E avevamo le mani. Entrate nella sala con l'organo. Un'armatura fa paura. Vedete che, appunto, dandovi le spalle, c'è una figura vestita in modo assolutamente sfarzoso che lo sta suonando con maestria una sinfonia. suntuosa e brutale. Untuosa. Che si addice al luogo. E qualcuno la faccia partire, Marco, vai. Splendida performance, batterei le mani, ma non posso. Non può battere neanche i denti. Esattamente. E per chi di voi non c'è ancora stato in questa stanza, notate appunto il tavolo, il lungo tavolo al centro, pieno di ogni ben di Dio. La descrizione. Adornato, esatto. Vabbè, che cosa è questa? No, è brutta. Mi è venuta fuori questa. Dai, metti, ma servirebbe tipo una roba tipo quella di Davy Jones. Quella che a me, io ho detto play Davy Jones. Ma la campagna non ha tipo la sua colonna sonora? No, ogni puntata cambia. No, dicono non ha le tracce musicali. Ah, sì, sicuro, cioè, ce ne sono un sacco. Ok, sì, il tavolo è ricoperto di qualsiasi tipo di deliziose pietanze, e addirittura anche frutta e vegetali, e tutto quanto è appoggiato su degli squisiti, delle squisite porcellane e argenterie. Buonissime! Crunch, crunch. Ad ogni posto c'è un calice di cristallo, sì, riempito con un liquido di color ambra, e con una fragranza fruttata e delicata. Perdonami. Bene. Dalla parete opposta, appunto, vedete l'organo dalle cui canne esce questa melodia con un tono di grandezza e di disperazione, e la figura che vi volta le spalle, avvolta in un lungo mantello, percuote i tasti del pianoforte dell'organo, catturato dall'estasi creativa. La figura si ferma e in un attimo un pesante silenzio riempie la stanza. Aspetta. E girandosi lentamente verso pesante silenzio vi saluta e vi accoglie. Il Strada in persona si pace. Vi offre un sorriso con i suoi canini. Ah no, grazie, sono a dieta. Ah, hai trovato un secondo lavoro, suoni i matrimoni. Faccio un applauso senza mani. Bene. No, fai lui come... Dì. Cosa sono i sordi? Devi far così. Anche se dovresti far così, però non hai le mani, quindi fai così. L'ultimo a far neanche quello. Esatto. Bene, vi accoglie calorosamente. Possiamo dire clap, clap, clap. Ci rimane, esatto, quello. Beh, quello tu ce l'hai le mani. Esatto, tu sei. Diciamo che se dai miei moncherini si sente questo, è un problema. Le tengo dietro la schiena. Esatto. Le può tenere in tasca. Comunque, lui vi dà il benvenuto e, insomma... Che Arci vi fa finta di essere sforzato, ma è solo per far vedere la sua immagine di lavoro. In modo molto anche, sì, la prossima settimana ci sarà anche l'aggiunta www.francescarcidiacono.it. Mi sovrimpressione, chiamate il numero in sovrimpressione. Il numero verso. Finalmente siete arrivati. I più grandi avversari che ho mai affrontato sono ma qui. Ma avete ancora il cartello? Certo. Può darsi. D'altronde, per toglierlo gli serve una mano. Sì, bravo. Com'è se dentro ci mettevo tipo delle armi? Non so come. Il cartello è un mimic, una gag che non vi ho ancora fatto, ma è sempre molto divertente. I miei più grandi avversari, vi devo veramente ringraziare. È stato come rinascere darvi la caccia e... e vedere come affrontavate sempre con tenacia e ardore le prove che vi ho mandato contro. Bene, è con grande gioia che vi vedo qui a testimoniare il mio più grande successo, che non sarebbe stato possibile se non anche per merito vostro. E di questo soprattutto per merito nostro. E ovviamente lui è super, come dire, tracottante, spaccone, eccetera eccetera, e appunto comincia a ricordare le vostre gesta, quando avete messo i bastoni fra le ruote a una delle mie consorti quando cercava di rianimare quel gigantesco tributo, se così si può chiamare, una l'abbiamo alla mia persona. Però, eh? Sì. Quindi sti ragazzi, beh, non sembra molto addolorato, e anche quella, anzi, la stavo per ammazzare, sono stato vicinissimo. Ma infatti lui era assolutamente intrattenuto dalla vostra prudezza, dalla vostra crudeltà e la vostra ferocia. E quindi vi dice, in virtù appunto dei tempi piacevoli che mi avete fatto trascorrere, all'alba di domani voi potrete lasciare Barovia per sempre. Per quante rimorsi e per quante screzzi ci siano stati tra di noi, li considero acqua passata. Finché io, Tatiana, non mi serve nient'altro in questa vita. E quindi, anche se ci siamo incontrati come nemici, beh, lasciate che ci salutiamo, non dico come amici, ma almeno da eguali. E quindi lui mi fa questa promessa. Ah, e poi lui fa, qua la mano. Ah no. No! Questa era geniale. Quindi dall'alto appunto, okay, della sua arroganza, Branda, appunto, vi dice, domani potrete andare. E poi aggiunge, prego, adesso verrete accompagnati nella stanza degli ospiti, e dove troverete degli suntuosi abiti della miglior qualità apposta per le vostre magnifiche signorie. Grazie. Bene, dell'ospitalità, possiamo... Conte. È un piacere mio. Non so, magari non ha senso, ma si può fare un insight per capire se è vera la cosa del liberarsi. Va bene, puoi provare a tirare. Vai. Vabbè, tiro puro, il mio non è che ho zero. Beh, 15. Bravo. Beh, ti sembra sincero. Beh, allora niente. Allora io dico, e poi ce ne andiamo domani. Dico che gli suonerai una bellissima canzone con l'organo, se solo mi ridessi le mani, così potrei coronare la suo apice con un ulteriore momento d'estasi. Oh, signor Sportura, non si deve sforzare. Oggi lei è ospite, quindi non voglio che in nessun modo si metta a quello, innanzitutto, e in secondo luogo non voglio assolutamente che vi sforziate, che lavoriate, oggi siete miei ospiti, e quindi la mia casa è come se fosse la vostra casa. E chi suonerà quel magnifico strumento? Oh, non ti preoccupare, suonerà da solo. togliere lavoro ai poveri bardi, così proprio l'economia è in crisi, la disoccupazione. Non è l'invalidità adesso, Marco? Sì, esatto. Di cosa ti lamenti? Credo sia anche infortunio sul lavoro. È un difetto, perché vedi, Strad può suonare senza mani, tu no. Beh, guarda mamma, senza mani. Quindi andiamo nelle stanze, esatto. Ci facciamo vestire, cioè almeno chi non ha le mani si fa vestire, perché... Venite accompagnati da una signora vestita come una serie, come una che si può vestire con le sue mani, mente, il femminile di maggiordomo, avete capito? È una domestica. Una matrona romana. Più che domestica, chiama, sì, però chiama il più... la governante. Sì, la governante, governante, sì. Però sì, non è che ha, come dire, la scuola, il vestitino per dare le pulizie. È quello perché non è, è quello, cioè, perché non è una domestica giapponese, cioè, nel senso, anche di un cartone di un anime giapponese. Però ecco, è un cerimoniere donna, che penso sia una schiava. Schiava. Un metro. Un metro. Vabbè, okay, qui sono tutti schiavi di strada alla fine, in effetti. Una prigioniera, giusto? Vi porta a salire le scale. Magari è una lavoratrice salariata. Esatto. Stradariata. E vi conduce nella stanza degli ospiti. Ci conduce. Vorrei in questo passaggio posso provare a distorcere qualche informazione dialogando con la domestica? E che informazione gli vuoi chiedere? Oh, che bei pavimenti che avete qui! Ma ho visto che ci sono un po' di tracce di bagnato, c'è un'infiltrazione d'acqua o qualcosa? Questo castello è immenso e quindi purtroppo sono cose che capitano, ma non ci facciamo troppo caso, ormai ci siamo abituati, non che ci dia particolare fastidio ormai. Quindi è immenso, e quante stanze ha all'incirca? L'88, lo sappiamo. Beh, noi non lo sappiamo. Sono alcune decine di stanze tra... ma a voi interessano giusto quelle che stanno qui in questi piani in superficie? Poi ci dà la brochure. È un castello così magnifico che dobbiamo vederlo tutti quando ricapiterà. Oh, beh, potrebbe essere l'unica cosa, l'ultima cosa che vi capita se vi mettete a vederlo tutto. Quindi almeno finché non sarà celebrata la cerimonia, vi consiglio di rimanere al di sopra del livello del terreno. La domestica sembra essere una persona vivente o tipo una pangina? Molto pallida e ha gli occhi tipo rossi, dei canini molto molto sviluppati, quindi siete abbastanza sicuri che sia una progenie. Con la guida ideale scommetto che anche il castello sarebbe molto sicuro da vedere. Con la guida ideale per questo castello, il castello stesso diventerebbe il luogo meno sicuro da vedere in assoluto. Ma sono punti di vista. Bene, seguitemi. Il percorso che fate è attraverso una scala a chiocciola che si prende da non si capisce un cazzo, o questa qua, sono i cartelli che puntano in direzioni strane. Questo lo dice la governante, non si capisce un cazzo di questo. Si tratta proprio la mappa. Comunque sì, sì. Marco l'ha trattata come si confà una domestica. L'ha detto. Che è meglio di come si tratta una matrona romana, vorrei sembrerebbe di sì. Quindi è un gradino più in là. Allora, perché si riuniscono laggiù? No, nemmeno. È gigantesco veramente. Sì, è una roba assurda. Perché è muoversi su piani diversi che si scende. Su questa scala, tu map 4. Ok, e poi da qua dove cazzo andate? Vabbè, a un certo punto arrivate nella stanza degli ospiti. Sì, la fine, dai. Andiamo, adesso devo trovarla qua su... Beh, su qua dobbiamo essere semplicemente vestiti, se ho capito bene. E, praticamente lei vi dice, a breve arriverà la servitù per aiutarvi a... Lei non era una schiava anche lei? No, lei è una, beh, sì, una signora delle cerimonie, la, sì, quindi un po' più alta di grado rispetto a quelli che invece fanno proprio la servitù, ecco. Che cos'è questa cosa? Questa cosa? Boh, non so. Qualcuno che presenta le sue canzoni. Esatto, era una parte parlata. Ah, ecco la strada che fate, l'ho trovata. Sì, prendete la tromba di scale che... Grazie. Quella che andando verso non dire questa parola. Cosa? Tromba di scale. Cazzo. Buonanotte, Arci. Almeno sì, non è una tromba... Almeno non è una tromba marina, sarebbe stato peggio. Questo è per Arci. Cos'è che state mettendo? Sì. Boh, sì, sarà tipo questo. Vediamo se funziona. Ctrl V. No, perché ho preso anche il disegno della spadina. Ok. Va bene. Quindi dove siamo? Siete in questa stanza del, che è la numero 50. E dove c'è un mobilio. Non stai coperto. Non so se lo volevi fare. Ah, strano. Una volta c'era. Com'è che si è tolto? Ok. E anche l'angelo con noi. L'angelo, quando siete, dopo che siete entrati dalla stanza, quando poi siete usciti, non era con voi, e quando siete usciti non lo vedete più. E lei appunto si congeda dicendo vada a chiamare la servitù, e appena apre la porta vede in questo caso sì, una domestica che sta portando dei vestiti. Lei un po' stupita dice: ah, sei già qua, allora non sei così addormentata come sembra. La domestica un po' intimorita si anchina il capo, la vampiressa esce e scende le scale, la domestica entra chiudendo velocemente dietro di sé la porta. In una frazione di secondo questa piccola e gracile signorina diventa alta quasi 2 metri, gli compaiono 2 spalle grosse così, un addome muscoloso e una chioma affluente, e vedete che assume l'aspetto del vostro amico Ilia. Che minchia ci fa qui? Beh, potrebbe ridarci le mani. Che non era un morto. Ilia, l'angelo. L'angelo. No, l'angelo, scusa, avevo capito, sì, non so perché. Che pensare? Cazzo, non si ricorda che... Pensavi al fratello di Iri? No, pensavo a Coso, quello brutto. Quello brutto? Cazzo. L'abate? Il demone? Sì. Ah, Coso. Ecco, vedi, no, sai come sembra? Sta facendo questo. Sto provando a usare questo per fare le storie. Izek. Okay. Izek, esatto. Bene. Lui si trasforma e dice: presto, venite qua, non abbiamo molto tempo. E la cerimonia potrebbe iniziare tra un paio d'ore. E vi tocca i vostri moncherini. Raga, allora ci stava cadendo il telefono. No, così apposta. Aspetta, ora c'ho la. Aspetta, c'ho questo. E da quelli vedete che piano piano cominciano a rispuntarvi le ditina, che mano a mano crescono fino a tornare nuove come erano una volta. Solo le dita o anche il palmo gli esce? Solo le dita, da qui partono Dal le dita. polso. Esatto, in ordine sparso, tipo E un cartellino al petto un che è scritto uniforme. germi miei. Esatto. Bene, consegna l'elsa della spada a Reis, come aveva promesso, e dice: io adesso mi allontanerò il più velocemente possibile, così se dovessero assumere il mio controllo sarò abbastanza lontano da permettervi di avere più tempo a disposizione. Recatevi in cima alla torre più alta e liberatemi da questo gioco affinché io possa ritornare e combattere al vostro fianco. Detto questo, appunto, apre la finestra. Adesso lo posso fare, ho di nuovo le dita. Non ti stavo guardando, cosa stavi facendo? Ah, è vero. Quindi si è arrivato alle mani, Cosa così. Gatta, cosa pensavi? Sembra No, pensare. ero solo curioso. Cominciamo a Sì, darci il direi. 5, a battere le mani, tipo, così. Io Alle vedo che mani? qualcuno, visto che siete solo voi, non lo faccio. Aspetta che c'è. Grazie, grazie davvero, come sei carino. E aprendo la finestra, prende tipo un oggetto in mano e ad intermittenza lo fa risplendere di luce, tipo per fare un segnale luminoso. E quattro corvi, dopo qualche istante, entrano dalla finestra, che si trasformano in corvi mannari. E vi ridanno le armi Cavoli, che gli avete cioè, consegnato. power, power, power. Cioè, non dobbiamo neanche fare il piano. Cioè, tipo, siamo lì. Possiamo andare giù e picchiare Cioè, Strano. è solo il problema che adesso noi non vogliamo più combattere. Aspetta, però qualcuno di noi non ha lasciato le armi ai Martin Corp, se non sbaglio. No, io devo Fuori, recuperare dai, le armi. ce l'abbiamo. Ah, no, Giulio, Marcello, vabbè. Sì, ma le puoi Comunque, rubare a uno zingaro. Anche se non ci sono le tue, ci sono altre armi. Sì, no, mi Tu se ne frega, mi serve la mia armatura, che non è esattamente mia, però, perché era quella Comunque ho del fatto due buon storie compastro. spettacolari. Ti ho Su visto, Instagram. Vez. Sì, comunque sono infame, ho per 2 secondi che chiudo gli occhi. Ma va là, eri lì da 10 minuti. Che carino. Oh, bello quello che fa così. Geniale. Va bene. Bella la seconda, bravo Vezzino. Vabbè, mi sono divertito. Oh, no, sono di nuovo offline. Ok, No. non mi fate paura. E dai, vabbè. Di panico Raga, anche voi non sentite adesso. Vez? Oh, l'ho Sto scherzato. scherzando. Chi di voi mi dice avevo lasciato a sti qua Va bene, quindi la mia ho di armatura che nuovo le porto anche mani e la quella. spada, giusto? Giusto. Allora è il momento di un motivazionale. Prendo la Ecco, potrebbe spada fare sfortuna. e dico: bene, Ma aspetta, aspetta, col cartello. cartello. Però Questo crea sono solo un vostri po' di vassalli. contrasto. Quel contrasto che. Ok, Vabbè, un po' ragazzi, di. vi motivo io, sconfitto. Bene, in fondo non era finita. So che alcuni di voi potrebbero sentirsi tentati dall'offerta di Strad, Sarebbe benissimo legittimo farlo. Ma facciamo il discorso condiviso, perché così do il bonus. Ma io vi dico forse questo. Sì, forse sì, ma che c'entra? Ma io vi dico questo. Se dovessimo uscire da qui senza aver liberato questa terra... Vivi o morti che sia, i fantasmi di questa terra ci perseguiterebbero per sempre. Ma se non possono uscire da questa terra, ci perseguiterebbe l'idea di non aver fatto tutto ciò che potevamo per liberare questa sventurata terra. E per prendere il diario di Strand. So che molti di voi sono stati tentati dagli oscuri poteri del tempio. Ci sono io con ancora i sarcofagi addosso. Ma io so in fondo al cuore che voi l'avete fatto. Che voi l'avete fatto. Che voi l'avete fatto perché, come me, volete sconfiggere il male che alberga in questo luogo. E quindi sento che in voi brucia la stessa fiamma in cui ora è tornata a bruciare in me. E quindi io dico: andiamo e combattiamo insieme un'ultima volta per la gloria di Roma. Cosa? Come? Che cos'è Roma? Non lo so, però è bello. Però suona bene, sì. Combattiamo e pensate al loot. Combattiamo insieme un'ultima volta come fratelli. Roma. Per sconfiggere le nebbie o perire in esse, ma con onore. Nel tentativo. Questo qua è il discorso che fa Vez su Ferrara o è il discorso di Varnstra? Ogni mattina. Di Varnstra. Vedo dei miei, dei vostri occhi la stessa nebbia che potrebbe prima coprire i miei. Un pezzo è un'ora prima perché si deve fare il discorso motivazionale. Domattina Vezzo dovresti fare un breve video con te allo specchio che dici sta roba. No, io faccio questo discorso, poi di fianco a me c'è tipo un Paki che traduce, fa quella sfortuna che può darvi il suo bonus per i discorsi motivazionali. Perché ha spento la luce. No, no, questo era solo flavor. No, ma tanto deve fare la doccia. Poi adesso tipo... Mi sta in collegamento sotto la doccia. Dobbiamo andare su Twitch che c'è il canale apposta per... Ha spento la luce proprio perché ora mi devo docciare. Credo che se vuoi di nuovo la luce è solo per OnlyFans, eh? Quindi devi scrivere. Geniale. So just mega cash. Così. Alexa, accendi la doccia. Aspetta, va bene, questo è il mio, è quello che dico io. Qualcuno okay. Mi carica. Sì, nel frattempo Sfortuna ti fa da supporto. Io che sono un druido, le schiave mi hanno lasciato vestito di foglie e di liquame o mi hanno messo i loro vestiti? Adesso nessuno ti ha vestito perché quello che sembrava dovesse farlo in realtà era il vostro amico Angelo che vi ha mandato. E quindi non mi puoi vestire lui? Adesso ti puoi vestire, o ti potevi vestire da solo anche prima comunque. Comunque se vuoi, ci sono dei vestiti qui. Sì, da cerimonia. C'è la luce, quindi ci arrangiamo. Sono molto vistosi. Sono eleganti, però hanno un gusto abbastanza, cioè sono sfarzosi, tecnicamente decorati, ma non sono pacchiani tipo, non so, piume di pavone, robe del genere. Sono dei vestiti da nonno. No, ma dico come colori, cioè sono molto accesi i colori. Hanno i colori della casata, che sono ovviamente un blu... blu-viola, colori da nobili, ecco. Quindi ognuno ha 13 punti ferita temporanei. Esatto. Ah Vez, ma ogni tanto taggami nelle storie così posso ricondividerle. Se no i suoi followers sfruttiamo. Anche perché tra l'altro il video degli addominali bellissimo, tra l'altro, veramente complimenti. Ancora farlo, sì. Ah sì, ah scusa, non ho tempo neanche per fare la riabilitazione, non ho tempo neanche per cagare, cioè. Mi direbbe qualcuno, salutami Ema. Vabbè, va di strano, sì, siamo tutti consapevoli che dobbiamo eliminare Strada. Io però prima devo recuperare le mie armi, o almeno le mie armature. Il motivo, cioè Giulio, il motivo per cui Atanas in questo momento ha tutto questo desiderio di sconfiggere Strad, perché hai le mani, si fida. Domani te ne puoi andare. Attenzione. Perché non si fida, pensa che siano tutti scomportando. Perché non ti fidi del fatto che ci lascia liberi, ok? Povero, perché da è l'unico appiglio, perché sennò anche io ero tentato. Da sì, quando accettato. Che storia di merda è questa? Non ti la puoi ricordare. Da quando ho accettato Vampir, che tutti stanno davanti alle mie spalle, più o meno. Non è vero. Così te ne... In realtà sono così tutte su Arci le storie. Mi metto la cosa di cosa. È bellissima. È questo uomo immagine, Arci. Guarda che si vede, io ti vedo. Sembra tipo presente la mummia nella sabbia, nella copertina. No, della, perché, della aspetta, mi ricordo alcuni quadri. Non so. Un Caravaggio. Addirittura ci stiamo trovando dell'arte. Sì, oddio. Sì, assolutamente. Cioè, cosa potrebbe essere un po' un quadro? Tipo il dietista assonnato, qualcosa del genere. Sì, natura morta. Natura non morta. Natura non morta. Beh, quello sarà anche. Ammetto che mi piace il discorso di Vardistran. Sento il suo, l'effetto che vuole, insomma, quello che mi vuole trasmettere ci sta tutto. E alla fine. Cioè, dentro di me sono consapevole che potrei anche andarmene domani se è vero che mi libera. Però da un lato, come dice Giulio, non è detto che ci liberi, magari solo per prenderci per il culo. Dall'altro mi piace l'idea di rovinargli la festa. E il Montone ha detto che ci avresti guidato alla vittoria, ridendo. Esatto. Tra i baffi delle monto. Sì, e in più io non me ne vado da qua senza il 10, quindi come dice l'Arbitran... Giusto. Okay, però l'unica cosa adesso dobbiamo pensare a ricamuffarci le mani o giriamo così e vaffanculo, come funziona? Dipende dove andate. Dipende cosa riesco a collegarmi al mio gufo per vedere la situazione sotto. Quindi l'hai mandato, non ho più capito. Non ho sì, più sì, l'avevo mandato, adesso non so se vivo o morto, provo a collegarmi. Ok. Provo a collegarmi, se non è una roba televisiva. Allora, salve. All connecting. Qui. Ok, ti concentri su di lui. Come si dice famiglio? Family. Familiar, okay. Penso proprio. Find familiar, non so. Sì, familiar. Family. No. Dio, sento più buio. Family who? Emilio. No. Emilio, famiglio. Family who? Ok. Se entro 100 allora, piedi posso comunicare telepaticamente. Esatto. E vedere attraverso i suoi occhi. Lo percepisci, comunichi con lui e vedi che è all'esterno. È tornato all'esterno dopo appunto essere sceso un po' giù, fino a quando ha potuto. E, praticamente... ti comunica che ha visto appunto dopo che le scale scendevano giù di un altro piano all'arrivo alla base della scala chiocciola c'è un corridoio che è allagato di almeno praticamente 3 piedi, quindi fai conto se è alto 10 piedi, sì, per un terzo praticamente. E alla fine di questo, appunto, alla fine delle scale ha visto due porte di ferro che appunto bloccavano l'accesso a questo, la prima bloccava l'accesso a questo corridoio e l'ultima la vedeva in fondo grazie alla sua vista, ai suoi occhi da gufo. Sicurezza, minacce? E non è riuscito a vedere anima viva, però non sa che cosa si possa celare sotto le oscure acque. E lungo questo corridoio, appunto, ha detto che ci sono, ti ha visto che ai lati ci sono degli angoli che proseguono, però lì non ci poteva arrivare perché c'era sto cancello. Allora condivido questa informazione. Ho appena parlato con il mio gufo. Le nostre armi sono state portate al piano inferiore, che è allagato da acque scure in cui potrebbero annidarsi ogni genere di cose. Vabbè, quindi se ci vanno con i mongrel, al massimo, fortuna, cioè, se le nostre mongrel... armi sono sul fondo di una specie di piscina. Non so se sono sul fondo, sono state portate giù e loro sono passati attraverso questa piscina. Perché io volendo posso trasformarmi in qualcosa di acquatico. Sì! E andare a recuperare le armi. Tipo una balena. Cazzo, sì, lo voglio vedere. Solo per questo andiamo, direi. Chiaramente. No, dipende dove. No, io lo voglio vedere. Cosa vuoi fare? Fai tipo un coso, un dinosauro d'acqua, no? O un orca, un... No, un T-Rex con boccaglio. Un T-Rex col boccaglio. No, c'è, vediamo se c'è. Un anchilosauro con le bombole. Comunque sì, c'è un dinosauro marino, di sicuro. Sì, ce ne sono. Vabbè, ci sarà anche il dinosauro Andrea, il dinosauro Francesco. Quando si sposa è diventato più simpatico. Ok, quindi se scegliete di scendere giù nelle catacombe. Ops, come una catacomba. No, in realtà non sono le catacombe, nei sotterranei. Può diventare tipo un'orca assassina, quella roba lì. Uno squalo. Un megalodonte. Squalo che c'era nel tempo dei dinosauri. Sì, ma quanto sarà grande questa piscina? Cioè, tipo, grande, il principio di Archimede. Tipo, lo spara in acqua, buffa, esatto. C'è tutta l'acqua e rimango solo le armi. È un corridoio largo 10 piedi, tenete questo. Dai, un megalodonte era lungo dai 10 ai 18 metri. Ci sta. Comodo. No, è il largo, quello che mi piace. E ho messo le armi in quella bacinella d'acqua. Druido che si tuffa con megalodonte. Cosa c'è in dezzo? Sto guardando la roba, bellissima. Dentro di megalodonte. Lui sta comprando delle suppellette di dinosauri da mettere in casa. Sono tentato di mettere questo. No, però aspetta. Sembra che stia dipingendo i Warhammer. O pippando come Damiano. Esatto. Vabbè, io devo andare a recuperare almeno l'armatura. Cioè, le spade posso anche farne a meno, l'armatura no. Quindi chi mi ama mi segue. Andiamo, voglio vedere sto coso. Va bene, okay. Potrebbe servirci. Allora, tornate indietro da dove siete però venuti. Però mettiamoci i vestiti. Così nascondiamo sotto i vestiti le armi. E le mani. Sì, dobbiamo... Più che altro, rega, secondo voi veramente noi riusciamo a prendere le armi così in maniera easy senza che veniamo ricamati male? Dipende, cioè, le armi le abbiamo in realtà. Però poi mi porterei tutto. I vestiti, perché poi mettiamo tutto sotto i vestiti. Io in realtà sarei da tenermi i vestiti brutti. Ma dopo veniamo sgamati che non abbiamo, che non siamo stati vestiti, capito? Allora me li porterei dietro e poi me li metterei in modo da non bagnare quelli belli, tipo. Presente James Bond che ha la muta da sub e sotto ha il completo. E poi di nuovo. No, hai un pacchetto e te lo porti di dietro. Cioè. Perché a quanto pare effettivamente ci sarà da sguazzare nella melma, e quindi se sei vestito bene poi... va bene, essere... onesto, mi piace. Portiamoceli dietro. Ok. Fatemi... usiamo Salla che diventa invisibile come gli pare, cioè lui non c'è, gli diamo i vestiti, diventa invisibile, ce li tiene, ce li porta. Potreste anche usarlo ad esempio per fare un qualche camuffamento, per camuffare le vostre nuove mani. Oh, travesti quell'orca da invitato. Esatto. Vabbè, ma cioè, basta... cioè dipende da come sono fatte le camicie, diciamo, non basta tenere il polso dentro. Ci sono dei mantelli e delle tuniche. Allora basta quello, ci hanno già visti senza mani, se non iniziamo a prendere roba. Sì, non facciamo movimenti strani, roba non ce ne dovrebbe. Oh, buono questo cosciotto! Esatto. Salve, buongiorno. Con tutti, no? Salve, buonasera. Sera, con tutti. Okay. Va bene, pace fra allora. I mondi. Intanto alla fine, se c'è un mantello, basta tenere le mani. Se uno si avvicina per darci il 5, dobbiamo resistere. Quello sarà difficile, però. Esatto. Lo dovremo fare. Se uno si avvicina per darti il 5, è un po' stronzo perché dovrebbe sapere che non hai le mani. Esatto. Ma magari lo fa apposta. Solo che io non resisto, gli do il 5. No, è 5 mentale. Cioè, gli do una testata sulla mano, no, sulla sua faccia. Ah, direttamente peggio. A muovere come voglio. No, qual era l'impostazione per muovere i token senza sfruttare la griglia? Ti abbiamo risposto in troppi, forse ti abbiamo confuso. Smart center, no, non è questo. Polygon line. Select mode. Poi se voglio muoverlo qua non posso. Che pazienza. Vabbè, comunque vi dicevo che scendete per le scale e mi fate un po' qualche tiro di stealth. Beh, non ho l'armatura, quindi non ho svantaggio. Non avete svantaggio. È vero. Però aspetta, Giulio, fammi tu il mio tiro. Tu. Non ho mai l'armatura. Okay. Faccio che gare. Ma è stealth per non far rumore o è stealth per non essere visti? Entrambi? Cambia qualcosa? Forse per non essere visti potrei fare qualche illusione per aiutarci. Prego, in questo caso avete tutti i vantaggi. Okay. Ho tirato una sequenza di 12 impressionanti. Ne ho fatto... di 12. Ma quanti tiri dobbiamo fare? Uno. No, cioè, ho tirato il dado da 20, ma ho fatto 12 come... due lo stesso, vai! Quindi con vantaggio, attenzione. Con vantaggio. Tiro 24. Sì, hai vantaggio, grazie a sfortuna. In totale ho fatto... 10 allora. Anche Arce ha fatto 12 di dado, però non so quanto hanno stretto. Io ho fatto 22. Quindi 14. Cioè, con vantaggio 12. Io ho fatto 10 con vantaggio. Ma non ho capito che adesso dobbiamo fare un solo tiro, perché dietro al 10 è buono. No, uno solo, perché quanti ne vuoi fare? No, perché hai detto fate alcuni tiri. Perché siete in 6 e quindi ne fate alcuni tiri perché siete alcune persone. Comunque 22. Oh. Sono 14 anch'io. In realtà ho un più 6 in furtività. Super. Mi carica il cellulare. Che troia. Io 24. Sono brutti. 24. Ok. Va bene, riuscite a passare a quanto pare non visti e non sentiti. arrivate in fondo alla scala, dove appunto vedete questo cancello di ferro arrugginito che vi blocca la strada, quello che ha visto il tuo gufo. Andati in bagno, ragazzi. Quello che si vede davanti a voi è questo appunto corridoio allagato. A destra e a sinistra ci sono due intersezioni e poi continua dove in fondo c'è un altro cancello e poi non vedete oltre. Ma il cancello ha una chiave? Il cancello non c'è una chiave, cioè c'è una serratura, sì. Ah, ok. E adesso... cioè non è tipo grata che uno alza, cioè c'è una chiave che uno gira e apre. In realtà è tipo entrambe le cose. Cioè sì, c'è una serratura, però appunto una volta girata una chiave, poi lo si deve alzare. Ok, continuo a ritenere che sia stupido ingegneristicamente parlando. Si vede dall'altra parte della grata. Beh sì, non è stupido, è una grata. Ok. Non c'è nessuno quindi a guardia, sembra non esserci proprio nessuno. Sembra non esserci nessuno. C'è un sasso. Non che tu veda, che cosa ti serve un sasso per farci luce? A buttarlo nell'acqua. Faccio mano magica dall'altra parte della grata e faccio camminare con le ditina sull'acqua. Mary e Pipino come... Cioè... come lontane, esatto, sì. L'acqua che vedi appunto prima che la che ci facciate qualcosa è ferma, è stagna e ogni tanto appunto viene giusto disturbata da un pluck occasionale quando una goccia cade dal soffitto. Allora, io ripiego i vestiti belli e mi metto quelli soliti che ho sempre usato per fino ad adesso. Mm-hmm. Sì, beh, tutti siamo. Ok. Io non lo faccio perché tanto posso pulirli con la magia. Quindi sono in fondo a questa piscina. Avete capito che questa è la strada che facevano i non morti, i white, che vi hanno preso le armi e le hanno portate qua sotto. Ah, vero che erano i wine di merda. Che quindi passavano attraverso. Aspetta, però le nostre armi non potevano passare attraverso. Passare attraverso che cosa? Le sbarre. Erano portate da Mogre. Esatto, erano portate. No, le hanno portate qua giù e le avranno lasciate da qualche parte. Dove sono le impostazioni? Volete che provi a forzare il cancello? Scusate, perché siamo qui? Per le armature mie. Ah, è vero che mi dico. Quantomeno le mie. Perso il passato. Beh, sarà anche la mia di armatura, suppongo. Se gliel'hai consegnata, sì. Era qua. Faccio così, eccolo. Meglio averlo. Che gentaglia che ha bisogno dell'armatura. Proviamo a... No, non è qua. Va bene, prova a scassinare, a scardinare, a sforzare il cancello. Se lo aiuto, ha vantaggio. Sì. Non ho capito, succede niente se uso la mano magica per perturbare l'acqua? In che modo la perturbi? Devo camminare con le ditina della mano magica sull'acqua. Quindi una cosa molto leggera, impercettibile. Non impercettibile, ma abbastanza leggera. Cioè, non fa rumore, non fa splash, una roba forte. No, non fa splash. Ok. No, vedi la superficie dell'acqua che si corruga di conseguenza. Se uno lancia una moneta fa pluck, esprime un desiderio prima. Okay, una moneta in meno, non lo segnerò perché tanto le monete sono inutili in questo gioco. Abbiamo delle monete, io non ho mai segnato le monete sulla schiena. In realtà abbiamo migliaia di monete, però vabbè. Che spenderemo da domani sera, quindi. Se volete ve lo leggo il tesoro. Ok. Vabbè, abbiamo 1300 monete d'oro, grazie, 5 gemme, una boccetta di olio. Olio sharpness, affilatura piccola, questo ce l'ho io. Una pergamena di cura ferite di massa, un revivify, sacchetti di 10 proiettili di fionda particolari, forse questa sia salva. Una grossa agata. C'è una donna, dobbiamo una grossa. No, una pietra che ti dà serenità se tenuta in mano. Pietra da buona fortuna, forse anche questa ce la salva. Più una probabilità di risalvere. Una botte di vino, no, questa forse abbiamo finita, la botte di vino. Abbiamo una pozione dell'invulnerabilità. Ma non è che c'è della roba utile alla fine qua in mezzo? Magari. Ma queste cose non ce le hanno tutte prese loro o le abbiamo lasciate fuori? Non le abbiamo mai, le abbiamo ignorate, questo è il problema. Ti piace lo zaino? Potete averle date in regalo agli sposi. Allora, mentre vedo Atenas che cerca qualcosa da lanciare nell'acqua, stufato, faccio una perturbazione più grande con la mano magica. È stufato, una manciata di monete, l'ho già lanciata, l'ho detto. Vabbè. Me lo faccio andare con il pugno sopra e sotto l'acqua. Con la mano magica recupero le monete. E recupero le monete. Fai splotch splotch splotch e senti da venire dal corridoio sud una voce. E... io ho delle briciole di pasta dei sogni che potremmo utilizzare in qualche modo. No, mi sa che hai usato l'ultima dose. No, no, non è il sangue che sniffavo. Quella era la polvere di sangue che sniffavo, ma la pasta dei sogni era quella delle streghe della prima inizio. Quella che si inietta in vena. Minchia, potremmo avvelenarci Strad, tipo. Cioè, tipo, magari lui no, però. Questa che usava Damiano. Ok, ti dicevo, cioè, dopo che fai un po' di splotch splotch, senti una voce venire dal corridoio che va verso sud, ed è un flebile lamento di una richiesta di aiuto. Dice: basta, vi prego, liberatemi. Aiuto, qualcuno mi aiuti. Ma una voce che riconosciamo? No, non l'avete mai sentito prima. Ok, qui non c'è niente. Andiamo. Okay, sono rompiballe, però non stai condividendo. Se vuoi condividere la mappa, fai bene, perché io ero convinto di averlo fatto. Vabbè, ma tanto non è dalla stessa parte in cui dobbiamo andare. Adesso vedrai, ma... cioè, oddio, in realtà non sappiamo da che parte dobbiamo andare, no? Vai. Noi non abbiamo una direzione, anche perché da dove comincia l'acqua, ovviamente le impronte non le seguiamo più, quindi... Io allora sfondo il cancello. Prego. Ma non dovevi forzarlo. Che carattere. Tu mi aiuti, hai detto, Garrosh. Sì, se vuoi il mio aiuto, sì. Ma io non lo voglio, però se tu mi aiuti non inizio a picchiarti, ecco. Grazie. Sì, se no ti aiuto io, dai. Prendi il suo vantaggio, va. Bam, 20 di dado, più 11, 31. Cancello si via me, fai tutto da solo, va. Basta, faccio io. Non l'ho fatto con la tua faccia. Il cancello si spalanca e avete via libera. Quanto vediamo? Senti dire dal piano di sopra, ma da dove arriva questo cancello? Quanto vediamo? Esatto, in realtà non è aperto. C'è la luce. La luce ce l'avete voi. Okay. E arriva ad illuminare fino all'altro cancello dall'altra parte del corridoio che sta qua, dove capite che si accede ad un'area più ampia. Ma c'è dell'acqua, quindi, se ho capito bene? È tutto, questo sì, piano è tutta la casa. Allora, aspetta un attimo, voglio vedere se posso usare Divine Sense oppure il solito spreco. Ma la voce che si è sentita ha detto qualcosa? Ha detto: vi prego, aiutatemi, liberatemi. E sta qua giù. Manda il famiglio a guardare, Marco. è molto stanca, flebile di uno che probabilmente. No, ma chiedevo, scusa, non ho espresso bene la domanda. Uomo, donna, bambino? Ah, un uomo, sì, molto profonda, baritonale, diciamo. Quindi una persona di una certa stazza, ma è molto provata. Boh, dai, io faccio il Divine Sense. Che funziona entro quanti 60 piedi? piedi, Sessanta. celestiali, fiend e undead, che non sono sotto copertura totale. No. Beh, se sono nell'acqua, dai, cioè, sparirà qualcosa. Sì, è che la griglia non corrisponde, quindi adesso devo fare. Vabbè, vai un po' a naso. Ah no, è vero, basta usare i quadretti. Che stupido. Non è un quadretto a 5 piedi. Esatto, quindi 1, 2, 3, Vabbè, 4. quello che c'è nel corridoio, dai, lo faccio. Sì. Sono 10, 20, Vabbè, 30, non 40, sono 3. 50, 60. Volevo vedere se arrivavi fino alla stanza che c'è in fondo. Direi che arrivi fino all'inizio e là in fondo percepisci la presenza di non morti. In fondo? Nella stanza in fondo. Dentro la Sì. strada. Until the end, you know the location. 10. Conosco la tipologia, quindi me l'hai detta. Non morto. Non l'identità. E anche la presenza di oggetti che sono stati consacrati o dissacrati. C'erano oggetti consacrati tra i vostri possedimenti? Vabbè, O ok, cose distratti? diverse. When you finish an unrest. Non so, la spada del paladino, forse. You know the Ah, location spada of qui. any. Ok. Ah, sì, è Però credo di la sapere spada di quanti Grace. sono. Ne percepisci almeno due fin dove arrivi. Ok. Ci sono non Non morti. sai se sei più in là ce ne sono già. E le voci vengono invece di me dall'ultima stanza. Da su, da No, da su. dove c'è la freccia? La stanza in basso. Vabbè, intanto possiamo avvicinarci a vedere chi c'è nella stanza. Ma se ho sentito bene, Marco aveva mandato il famiglio, quindi Beh, non, scusa, non c'è una porta di ferro che chiude la stanza. Questa no, non l'avete ancora vista che cosa c'è perché è dietro l'angolo. Comunque avviso gli Ok, ma altri che ci mandi il sono dei non famiglio. morti nella stanza in fondo. Vabbè, direi quantomeno di avvicinarti intanto alle porte laterali, quindi arrivare a metà del corridoio. Chi va Probabilmente per verremo primo? visti. Cioè, volete eventualmente tipo cercare trappole, robe così? Boh, non so, nell'acqua. Quello che dovrebbe farlo non c'è mai. Vabbè, lo possiamo fare tutti, non è questo. Bravo. Dai, dai, andiamo. Chi è che Andiamo. esce per primo? Mando prima Lui. il famiglio a fare Sì, un ok. giretto e poi lo richiamo subito e poi andiamo. Dopo che il famiglio ha visto cosa c'è nelle due alcove fuori vista. Sì. Allora, 74. Arci, vai sereno, abbiamo sbloccato un'altra descrizione. No, vabbè, quello che vede Che è facendo successo, questo Arci? corridoio avanti e indietro Adò. è quello che vedete voi. E sbirciando appunto da destra e a sinistra. Beh, guardatevi le storie che ho messo allora. Esatto, vede che ci sono altre due porte, cancelli di ferro arrugginito, che sono anche questi mezzi sommersi. Sì. T-Rex con la mascherina. Tra l'altro neanche mezzi, perché no, più di mezzi, perché la ci sono delle evidentemente ancora più in basso, ma più in basso quando si va a destra o a sinistra. E quindi qua l'acqua è profonda 5 piedi, quindi praticamente si vede la porta, la parte alta della porta. 5 piedi e quindi praticamente sbuca la testa. Ah, aspetta, io è per voi. Un po' di più, sbuca tutta la parte alta del torace. Dipende quanto sei alto, tipo Salla, secondo me non sbuca, non sbuca niente. Io non ho mai specificato la mia altezza. Secondo me è tipo anche il nano, esatto, sta sott'acqua allegramente. Nano, sì. Arci no, vabbè, perché, punta di piedi. Perché l'anchilosauro credo che sia più alto, però. Vabbè, però comunque l'acqua è stagnante, quindi basta che riesco a respirare, non c'è una corrente, quindi riesco a camminare magari, non so, dipende quanto sarò alto, Katta decidi tu. Ma ascoltate una cosa, scusami Katta, non ho capito qualcosa. Bene, questo è in dove? Nella primo corridoio o nella metro stanza? 40, metro 60. Dappertutto penso che sia uguale. Nelle due stanze, nei due rami di questo corridoio, il terreno evidentemente va ancora più in basso e quindi vedi relativamente il livello è più alto in questa stanza, sì. Perché scendi più giù. Che brutto. E quindi tu vedi praticamente spuntare dal livello dell'acqua il cancello d'ingresso di queste due stanze, che è per tre quarti sommerso. I nani sono alti tra i 4 e i 5 piedi. Ok, quindi io rimango sott'acqua se vado giù. Diciamo che se stai in punta di piedi stai proprio in una situazione di non fate l'onda. Ma i vostri poteri, no, quello di Arci non può ghiacciare queste robe, no? No. No, ma teniamoci per lo scontro. No, ma tanto alla fine dobbiamo solo vedere cosa c'è. Io allora andrei a in quelle stanze, non hai detto ad aprire la porta dove c'era la voce. Ok. Atanas si incammina. Io vado lì, ma rimango al centro del corridoio. Cioè, no, non è che corro, vado avanti, se anche gli altri mi un po' seguono. Sì, io vado con lui. Okay. Io mi fermo. No. No. Ok. Vabbè, va bene anche lì. No. Mi posto in fondo. Vedi che volevo cambiare le impostazioni della mappa, porca troia. Forse potete farlo anche voi se vi ricordate come si fa. In che mappa sei? Siete in A, Dungeons and Catacombs. Marcio è una progenie. Cosa? Cioè, no, è un orso. No, lo scrive Ambra. Quindi vuoi ingrandire un sacco la mappa. No, voglio togliere l'opzione che ti faccia entrare il token nel quadretto, cioè usarlo liberamente, metterlo anche all'incrocio della griglia. Allora devi premere Alt mentre lo muovi. Ah, è così semplice. Wingardium Leviosa. Ecco. Ok, quindi l'ordine è Giulio, ma non è vero. Poi dietro a Bardistran e poi di fianco tipo Garrosh, giusto? Chi si è sconnesso? Ok. Allora, nel corridoio il livello appunto è giusto di profondo tre piedi. E appunto nei gradini che ci sono ai lati scendono di altri due piedi, fino alle porte di ferro a nord e a sud. Il terreno sotto il pelo dell'acqua non è solido come uno si aspetterebbe. Fangoso. Quindi sentite esatto un po' di melma, non è molto solido. Hai detto fangoso, riesco a usare plasma terreno? Sì. Bello. Comunque Ambra chiarisce che è una progenie perché non è proprio morto nella vita vera, ma quasi. Lo uso per creare un passaggio fuori dall'acqua. Ma perché quando è andato in doccia ha lasciato lì il telefono? No, c'è la fronte. Okay. Forse c'è lasciato anche la fronte. C'è. Puoi, puoi disegnarlo il passaggio che crei? Sei un boss, Marco. Come fai a vedere la mia fronte, Vez, che sto guardando da qua senza, senza mettere la fronte sul... Io vedo la fronte. Vediamo la tua fronte? Perché devi vedere... No, non potete vedere la mia fronte. Era qua. La fronte, era la fronte, era la fronte. Adesso vediamo la, tutta la tua faccia. Era la fronte, allora rimani così. Ah, perché ti faccio vedere. Fronte. Oh, perché cazzo, così voi vedete un po'. Aspetta, Arx. Aspetta. Arci, non lo dovevi fare. Non fermo, fare cose strane. Fermo. No, no, beh, io sto guardando la mappa. Però non so che cazzo vedete voi. La tua fronte. Torna come eri, ok. Cosa di torna come eri? Così, stai okay. così, fermo quel dito. Fermo con quel dito, cazzo. Fermo, non via il dito. Non è il mio dito. Allora il tuo cazzo, toglielo comunque. Ma cos'è, tipo una passerella? Sì, faccio una mini passerella sotto. Vezco, okay. Mi sta facendo una storia, quell'imbecille. Cioè, quindi rialzi un po' il livello del terreno in modo che tutti possiamo camminare con la fuori dall'acqua. Okay. Perché non voglio sporcare il vestito, anche se posso pulirlo. Ah, ma proprio, cioè, come se fossimo Gesù, camminiamo sull'acqua proprio direttamente. Siamo sì, a quello d'acqua, direi. Ok, mentre fai questa cosa, nei punti che ho segnato con una X, quando ci arrivi ad accumulare un po' di melma in quel punto, praticamente ad una certa si crea una specie di in un istante un risucchio di acqua e vicendevolmente un'uscita di aria, e quindi c'è una specie di mini geyser. E dopo qualche istante, appunto, vedi questo mulinello di acqua che viene risucchiata verso il basso, e poi dopo qualche istante smette. E questo succede appunto in questi due punti, dove quando ci passi con il tuo incantesimo. Quindi sarà tipo uno degli sfiatatoi, cosa? Io sono stati liberati degli sfiatatoi. Parliamo di Arci che è diventato una balena. Il livello dell'acqua resta stabile. Ora vedo la mia fronte. Sì, ci sono un po' di onde, poi viene, come dire, si reintegra. È come nella storia, Arci. Adesso ci guardo, aspetta. Vabbè, io comunque dico, vogliamo vedere chi è prigioniero e salvarlo, o andiamo dritti per le armi? Mentre appunto Sfortuna faceva questa cosa, ha continuato a sentire un tizio che da questa stanza chiede aiuto. Compagni, capisco la fretta di aiutare, ma non sporchiamoci i vestiti, aspettatelo ancora un attimo. Beh, io tanto mi sono messo i vestiti zozzi, zozzissimi miei. Possiamo sentire chi è, se la cosa ci interessa bene. Ma quindi ci hai fatto una passerella per andare lì, giusto? Praticamente sì. Bene, ottimo, sfruttiamo. Okay, io mi volto, ripeto, vogliamo liberare il prigioniero e vedere chi è o andiamo? Sì. Ce ne freghiamo. Boh, in realtà tanto se lo liberiamo è comunque qui dentro il castello di Strat, tanto vale che rimaniamo sull'obiettivo. Vabbè, siamo qua per liberare la gente di Barovia. Se lui è un prigioniero, potrebbe essere un alleato. Cerco di aprire il portone con la mia solita Athletics. Qualcuno mi dà una mano? Prego. No, ma quale? Quella nord, sud. Quella sud, dove dietro ci sta il prigioniero. Ah, okay. Allora ti do una mano io. Okay. 27. Boom! Madonna, che tiro. Eh beh, ma Giulio è un più 15. Bene. Dentro questa sala allagata vedete che ci sono una serie di celle che appunto sono usate a mo' di prigioni e molto, molto crudeli perché lasciano praticamente qui a mollo i poveri malcapitati. E questo è il tizio che c'è in una di queste celle. E le altre sono piene o vuote? O nelle piene altre morti? Vedete, allora, quella a sud è la, sta- è la è un stanza elfo. Come un elfo. È un elfo. Ma oddio, come fa? Sembra. Beh, ha le orecchie a punta. No, beh, c'è solo un negro. Beh, è un elfo afroamericano, ma è un elfo. Si dice abbronzato, Marisan, abbronzato. Nelfgru. Ha le orecchie a punta, rega. Sono nella prima come, stanza. Come tutti i negri, puoi dire questo? No, no, okay. Hanno, sono leggermente appuntite, però non sono da elf, cioè è un umano che ha delle orecchie fatte così. Ok, si sono un po' appuntite effettivamente, ma non è un elf. Beh, e lui sta nell'ultima stanza in fondo a destra. Ma non ci sono delle celle, è tutto aperto? Sì. O ci sono... sembra tutto aperto effettivamente, ma non vorrei per dire. Entrarci dentro ci sono delle... Ma degli elfi che conosciamo è quello che ha più orecchie a punta. Oh. E chi ha orecchie per sentire, che esatto. Senta così. No, ma è morto. Guardando le altre no, mi sembra vedete, ah sì, c'è una cosa importante qua mi sa. Allora, in uno, sì, in uno c'è un cadavere effettivamente. Ah no, qua no. E, fortunato. Allora, esatto, andiamo con ordine, quindi siamo sempre portarle e non siamo stati noi. Questo non lo sai. Hai ragione. No, non è detto. Questo. Allora, qui non si vede nulla se non acqua. Come anche qua. E in quella di fianco, giusto la D, è qui, esatto, c'è un nano morto. È un nano guerriero. I suoi resti mortali giacciono qui. E racchiusi in un'armatura di piastre arrugginita insieme a sé a un'ascia da battaglia che giace di fianco a lui. Ed è un'ascia da battaglia magica per caso? Purtroppo no. Comunque, Vez, una nostra follower mi ha scritto espressamente una lamentela. No, quello è un elfo scuro, punto. Quindi mi dispiace, i nostri follower dicono così. Può avere il suo motivo. Poi, in quella di fronte a questa... Ah no, in quella di fronte al prigioniero non c'è nulla di interessante. In quella di fianco c'è i resti di un essere umano. Perché è incatenato al muro. I prigionieri qua vengono incatenati al muro e lasciati a mollo a morire. Quindi anche il nano in armatura è incatenato. Il nano in armatura no, è morto perché era sotto il coso. Posso vedere che tipo di armatura al muro, anche se riprendono vita o sono dei non morti, restano incatenati al muro. Quelli che non sono incatenati al muro, questo è un giusto appunto. L'umano morto aveva con sé una tunica blu, vestiva una tunica blu in testa aveva lunghi e grigi capelli che gli coprono, cadono in avanti e gli coprono la faccia. Ed è una tunica più uno, forse. Ci sono ancora ma un po' di... Ma tutti i prigionieri sono scuri o... In questo, la sua pelle era chiara, c'è ancora qualche brandello attaccato alle sue ossa, da cui sono visibili sono visibili alcuni buchi su quello che rimane della sua pelle e della sua carne, che sembrano appunto i fori di alcuni canini. Bene, vedete invece Nell'altre due, nelle ultime due stanze vedete un tizio che praticamente è impiccato. In questa qua. E appeso al soffitto e con... Ah no, scusi, impiccato, è appeso a testa in giù. E in modo che, appunto, per vedere quanto resisteva con la testa sott'acqua. E insomma, prima sta di resistendo ancora lì. Ancora la testa sott'acqua, campione. È annegato da un po'. E vedete che in fondo al sott'acqua, in fondo alla cella, c'è una lira, uno strumento musicale che ormai è rotto. No, ma credo che sia la moneta che ha lanciato prima Giulio. Il vecchio coin. Voglio usare scusa, finisci. Nell'ultima non c'è niente di interessante. Vorrei provare a recuperare la lira. Non c'è niente interessante, solo che c'è solo scritto Vardistran e i suoi amici. Lo stato di posizione in armatura? Riservato. È difficilmente servibile. Vabbè, ma qui sostanzialmente c'è anche solo sto tizio vivo, giusto? Sì, qui c'è solo sto tizio vivo. Va bene, allora direi che gli parliamo. Diciamo, chi sei? Cosa fai qua? Ovviamente non lo chiedo al paladino, mi rivolgo agli altri, perché perdiamo tempo con questo prigioniero. Magari può essere utile. Cosa fai qui? Va bene. Chi sei? Vedi appunto questo giovane uomo che non è incatenato lui, cioè, ha le mani che premono. Non ha le mani. E afferra le sbarre della sua cella. Si sta sforzando di tenere a freno i suoi denti dallo sbattere dal freddo, e i suoi vestiti sono lacerati ed è zuppo da testa a piedi. Dice: il mio nome è Emil Toranescu, ero un abitante di Vallachi e mi hanno inseguito dei lupi fino al castello. E sono entrato cercando salvezza, ma mi hanno imprigionato. Vi prego, liberatemi. Cosa ne pensi di Lady Vaktar? non so che sia. Come lo sai che sia? Sei dei Vallachi, dai. Venga, io devo andare in branda, così potete startare il fight. Bravo, Arci. In realtà sì, sta per startare sul serio. Molto probabile. Sì. Buonanotte, raga. Ciao, Arci. Devi cambiare il codice, devi dormire prima e ti colleghi adesso. Ciao. Voglio provare un'intuizione. Quando finiscono i coprifuoco, che tipo è... comunque dal 7 giugno lo spostano a mezzanotte, dal 21 giugno lo tolgono, torneremo a fare in presenza? Chi lo sa. Beh, qualcuno la possiamo anche fare, in realtà, se volete ci organizziamo come vorrete. Per me sono più carine in presenza. Sorpresa, Arci, mi viene a dire. Sì. Questo No, nel senso che è più bello in presenza, sì, presenza più bello. Però tu sei l'unico vaccinato, no? Cioè, a me scende meno in presenza. Grazie. Beh, non puoi spegnere la luce, no. In effetti. No, nel senso... cioè, puoi, beh, però te la riaccendo io. Ah, sì, dai, qualcuna sì, dai. Diciamo che quando capitano delle giornate in cui quasi nessuno agli orari stretti, faremo in presente. Ma qualcosa possiamo fare, sì. Però sì, esatto, dobbiamo, direi che dobbiamo aspettare la fine del coprifuoco. Vabbè, fine giugno. O diventare bianchi prima. Però mi sa che lo faremo adesso, non è che perché abbiamo trovato un personaggio adesso nero. Giugno, poi c'è luglio. Se Vez il 3 luglio non c'è più... Come non c'è più da luglio, Vez, questa cosa? No, io ho le ferie nelle settimane centrali, vabbè, ma poi dopo... Vez, quali ferie migliori se non stare a casa a giocare a giugno? No, vabbè, ma sono due settimane, quindi poi vabbè, se facciamo una pausa poi possiamo farle qualcun altro. Vabbè, ma buttarla lì perché semplicemente per me è più carino ritrovarsi Sì, anche sì, se magari sì, ci gioco, riusciamo, sì, ci ma volendo possiamo, ma sì, anche organizzarne una tipo sabato, un sabato a pranzo se volete, quindi che possiamo tranquillamente fare. Io lavoro, però Beh, magari un giorno non lavori il sabato a pranzo. Anche una domenica a pranzo, Arci. Anche una domenica. Domenica a pranzo è già fattibile, però tu scherzi, ma il primo sabato che non ho lavorato è stato questo, il 22, nel 2021. Probabilmente è il giorno che hai più richieste di tutti. Sì, esatto. Congratulazioni per il tuo benessere. Bene, liberissimo. Però... però se no, tipo anche la sera dopo cena fino a mezzanotte, comunque col coprifuoco cambiato, secondo me è già più fattibile. No, fino a mezzanotte no. Cioè, è vero che tanto non controlla niente, cioè... Sì, però... ma cominciamo a giocare alle 9:30-10, come fai il coprifuoco a mezzanotte, non fai in tempo? Beh, in realtà alla fine 10, quando ci trovava persone. Come... a meno di problemi tecnici e smadonnamenti diversi in diretta che... Vabbè, no, comunque però, sì, ci possiamo organizzare. Sì, sì. Va bene. Dai. Bella, ciao Arci, buonanotte. Ciao Arci, buonanotte. Oh, allora. Bardistran, lui ti dice non so chi sia. Iniziativa. Quindi insomma, ti pare abbastanza difficile che sia di Vallachi. Difficile che, e quindi che ti sta dicendo la verità. Cosa? Complimenti, hai fatto una domanda molto sagace. Provo un'intuizione, ha fatto 15 più 3, 18. Quindi anche tu intuisci che sta mentendo affinché vi impietosiate e per liberarlo. Scusa, qui cioè, saranno tutti pallidi e bianchi e nero. Quindi è originario di una terra fuori da Barovia. Rumeno ha detto il nome. Emil Toranescu, sì, effettivamente è un nome abbastanza... balcanico, diciamo. Capisco la tua sofferenza, ma come... ma temo che tu non ci stia dicendo la verità. Se vuoi salva la vita, è meglio che tu la dica. E oltre a questo, vi ricordate che tanto tempo fa una persona, anzi più che persona, una mannara, gli aveva detto: aiutatemi perché il mio compagno è prigioniero. Ah, cacchio, è vero, il compagno della tizia. Ah. E tu, Giulio, gli avevi promesso di aiutarlo. Ah, sì, no, avevo fatto questa promessa. No, non lo so. No. Boh, uno di voi a un certo punto è diventato tipo quasi capobranco. È stato Giulio che era il capobranco. Io tecnicamente sono il capobranco perché ho ammazzato il vecchio capobranco. E tra l'altro ho ancora la maledizione della licantropia che non mi è mai stata tolta. Qualcuno te l'ha tolta. No, mi sono riascoltato la puntata, nessuno me l'ha tolta. Me l'ero segnato, vabbè, ci devo guardare. Comunque... facendo due più a quel punto mi avvicino, faccio io sono il tuo capo branco. Quale branco? Gobba, quale gobba? alle mie parole dice qualcosa invece. Tu gli avevi detto dici la verità, giusto? Esatto. Se vuoi salvare la vita. Sì. Ti esaudisce la tua richiesta e dice: da quello che so, il capobranco è là fuori che sta tiranneggiando contro i poveri membri del mio clan. Ho ucciso Kirill e ho mangiato il suo. No, non ci credo. È troppo forte. Ma stai mentendo? No. Allora si vede che sei Adesso il branco dovrebbe essere governato, se è riuscito a mantenerne il controllo, ma... Duleika. Sì, Duleika. Il suo sguardo si fa speranzoso e pieno di gioia. Duleika, allora sta bene. Vi prego, portatemi da lei. Farò qualsiasi cosa per aiutarvi. Com'è che si chiamava la divinità? La Madre Notte. Sì. E come mai sei finito qui, tra gli oppositori del conte? Quel maledetto codardo di Kirill, quello che è stato ucciso da Athanas, era un folle, voleva rapire bambini da... non tanto per il fatto del rapimento, ma era un fissato con la purezza della razza, della linea di sangue dei licantropi, e fissato col mantenerne la purezza e la forza. Quindi tutti i bambini che generosamente benedicevamo col nostro dono, a chi prendevamo per benedire col nostro dono, li faceva combattere a morte l'uno contro l'altro affinché solo uno sopravvivesse e condividesse quindi con lui. Quindi tutti i bambini che abbiamo salvato e portato con noi sono dei mannari? No, perché appunto lui ti sta dicendo che l'ex capobranco era un fissato con la purezza della razza. Quindi li faceva prima combattere e poi dopo li mannarizzava. E quindi quello che sopravviveva era il più forte, si meritava di diventare un lupo. Okay. Mm. Invece lui è più democratico. Tutti quelli... lui dice invece il branco deve crescere e il nostro dono deve essere condiviso con più persone, più eletti possibili. E questo a lui sì, beh, non andava con un giusto numero. E quindi un giorno se n'è andato dal branco per ritornare qualche giorno dopo con un... seguito da uno stormo, da un branco di lupi crudeli, portando la parola del conte e dicendo che ero in arresto. E questo enorme branco di lupi mi ha scortato fino al castello e sono stato imprigionato qui, senza più speranza di rivedere la luce. Ma adesso voi siete la mia luce. La Madre Notte ha mille vie. Questa è la via. Hai fatto molti crimini. No, in passato. Ma cos'è qualche crimine? Chi di noi può dire di non aver fatto nessun crimine? Sì, poi molti pochi. Comunque, da suo punto di vista, lui ha... volenterosamente rubare i figli, rubare i bambini a dei poveri genitori per trasformarli in mostri è quanto di più crudele ci possa essere in una terra normale, ma in questa non è la cosa più crudele. è comunque meglio che rubarli comunque e farli combattere ad ammazzare tra loro. in questa è un tipico martedì. Ma in questo esatto è tutto ok. Quindi forse potrai avere un'occasione di redenzione. Sì, redimi. Fammi tu. A patto. Lui è un mio sottoposto, quindi lui adesso ci aiuterà. A patto che tu ci aiuti nel combattere la malvagità che alberga in questo luogo. Potrebbe tipo radunare i lupi e portarli contro il castello. I lupi o i lupi mannari? I lupi mannari. I lupi mannari, se avete notato, quando avete fatto il patto con Duleika, lei lo ha rispettato. Sì. E quindi non sono più dato fastidio. Ma non è vero però, perché stanno attaccando Kretzk. I non morti stanno attaccando. Non i lupi mannari. altrimenti si sarebbe stato uno scontro. Quindi sì, in realtà so che Zuleika comanda ancora. Infatti, la riduzione che Zuleika comanda. Effettivamente non ci sono stati più attacchi di lupi mannari. Vabbè, lo liberiamo o no? Cosa gli facciamo fare a sto qua? Beh, un lupo mannaro in più può sempre essere utile. Certo. E inoltre io nel frattempo vi metto fretta e dico, potrebbe arrivare qualcuno da un momento all'altro, qualunque decisione prendete muovetevi, andiamo. Questo è stranamente saggio. Apriamo chi sei tu? No, nel senso che fin dall'inizio a me non me ne frega niente di questo tizio, quindi appunto va, dico ho detto Garrosh. Chi sei tu? Chi sei? E vabbè, dai, lo apriamo, lo liberiamo? Lo apriamo. Dai, lo apriamo, Giulio, mi piace questa mossa. Mostra la tua potenza, così che lui si sottometta a te. Mi piace. Gli chiediamo qualche informazioni sugli altri ex ospiti. C'era qualcuno di vivo quando sei arrivato qui, di gli altri? Erano già così quando sono arrivato. Dicono tutti così. Erano già così. Il corridoio è costellato di trappole a pressione che portano direttamente il malcapitato in una di queste celle a marcire in terra. Ecco cos'erano quegli zuff. Esatto. Grande. Quindi, Marco, state attenti a dove mettete i piedi. Cos'erano, scusami? Beh, insomma, no, perché tu potresti semplicemente distruggere le griglie e liberarle. Sì, io, ma non tutti. Beh, poi liberi gli altri, immagino. Quindi dobbiamo fare una cosa di stealth, inizio a distruggere qualsiasi cosa. Vabbè, ne ho fatta una. Vabbè, col cancello non è che hai fatto molto... Visto che siamo io e te, Vez, mi dai una mano ad aprire la cella? Sì. Ok. Sì, mio capo branco. 27. La cella si apre come una cozza durante una mangiata di pesce. Va bene. Emil è libero e si offre e vi attacca. Io lo guardo un attimo con gli occhi senza orbita. Guardami la... E gli chiedo, hai fame? Domanda veramente inquietante. Annuisce perché è da molto tempo qui al freddo e al gelo. Bene. Di sopra c'è un sacco di gente, ma non nel caso non attaccare una bambina elettrica. Descrivo la bambina vista. Ma in teoria l'idea è non attaccare nessuno, se no ci sgamano. Mentre noi combatteremo Strado, quando verrà lui ha fame. Quando verrà il momento, però. Adesso fai il buono. Ho capito, ma intanto gli dico lei non la toccare. Va bene, lui chiede il capo e dice ai suoi ordini, capo branco. Finalmente quella cosa è tornata utile, è stata totalmente inutile. Totalmente no. Sì, perché di solito con la tua compagnia non è così invece. Certo. Ricordati la cosa di essere praticamente il capo branco, cioè era stata messa da parte subito. Ma quindi lo lasciamo andare così lui? No, ci si vede. I miei vestiti così può mimetizzarsi meglio. Ma glieli diamo dopo quando siamo usciti dalla fanghiglia. Andiamo adesso. Può essere un'ottima idea. Perché? Perché sennò tu rimani nudo? Gli altri vestiti sporchi, gli do i tuoi vestiti nobili. Appunto, no, lascialo così e dopo ci cambieremo. Va bene. Ritorniamo quindi al corridoio. Una cosa importante, hai visto passare dei non morti con delle armi recentemente? Prima magari vedeva. No, ho sentito prima passare diverse persone, punto interrogativo, che percorrevano avanti e indietro il corridoio, arrivavano in fondo, si sentiva degli schizzi come se lanciassero qualcosa nel salone in fondo e poi tornavano su per le scale. Non so chi fossero perché da dove erano si vedevano. Va bene. Bene, probabilmente tra un po' combatteremo contro dei Wraith qui, non so, non mi ricordo che. Preparati. Ai suoi ordini. Vabbè, ci rimane solo da andare avanti e Possiamo prendere combattere Claire e lui. prepararlo. Mi Così piace entra un'altra lui da cosa. solo. Bella, Marco. Marco, spasserella. Così non pestacciamo niente. Ah sì, dico agli altri delle trappole. Che sono quindi? Che il corridoio, lui ci ha detto che il corridoio è pieno di trappole che ti teletrasportano nelle celle, quindi probabilmente gli sbuffi che abbiamo visto prima quando Sfortuna ha fatto il trampolino erano l'attivazione di queste trappole. Bravo. Controlliamo l'altra parte dell'ingresso prima. Cosa ce ne frega dell'altra porta? So, magari c'è qualcos'altro interessante. Beh, diamo una sbirciata, dai. Devo sfondare un'altra porta. No, tu sali all'ingresso, dai. Vedremo oltre, no? Sfrecciando l'altra porta, vedete appunto una stanza speculare questa. Ah, mandaci il gufo E allora, scusa. il gufo non passa dalle grate. Vedi che ce la faccio passare. Grazie. Beh, puoi aprire la gratta, esatto. Ed è la 74, giusto? Deformo leggermente la grata in modo che ci possa passare il gufo. Facciamo una Penso prova di sia più forza. facile. Ma scusa, Penso sia fai più prima a facile. uccidere, scusa, fai prima a uccidere il gufo e poi Marco lo e Sfortuna lo Avevo che dall'altra evacua. parte. Questo è vero. Ma probabilmente è 74. La porta è talmente arrugginita e talmente messa male che si apre senza sforzo. Tu la apri senza sforzo. Anche perché quanto è il tuo bonus di Athletics? Più 11. La apri senza sforzo. E noti che c'è una luce provenire da una delle celle. Beh, E c'è il gufo è. di una ci dica cos'è. Ah, Nel ok. gufo. Mandate il gufo. Il Il nano dice: sento odore di trappola. Allora avrei dovuto mandare te davanti, non il mio povero gufo. monete che ho lanciato prima nell'acqua. La luce viene dalla cella numero. Numero. Poi. Scavicchi ma non apra. Numero H, che è proprio qua di fianco a. Numero Non conosci il numero lettera H. 2. Dipende in che base stai contando, no? Esatto. Da qui c'è della luce luminosa, Ah, e quindi siamo da lì. subito lì, e da sotto l'acqua si può vedere che c'è una lama che risplende di luce verso il fondo della cella. Ok, il Accio gufo può spada. toccarla, la lama. È sott'acqua, non so se i gufi si immergono. Faccio una manetta magica. Uso gli occhi del gufo per Gli occhi e il orientarmi. cuore per capire i tuoi segreti. Per capire. E manipolo la manetta magica per prendere la lama. Per Ok. capire i tuoi oggetti magici. Quando impugni questa spada, senti che comunica telepaticamente con te. E trasmette le sue emozioni ed è una nobile spada con una ferrea volontà di combattere il male. Porca Giulia, la butto giù. Non c'è niente, ragazzi. No, vabbè, l'abbiamo visto. Siamo tutti malvagi. La prendo, cazzo, non voglio la spada. È sempre che deve combattere il mare, Giulio, tutte le volte vieni fregato. Scusa, quella di luce l'ho lasciata a Reis che non c'è. Ma no, questa sarà la lama della cosa di luce che ha lasciato Reis. Pensato che era... Ah no, ma Sho se... ha anche, anche se... ha qualcosa. Dall'Elsa no, ma non può essere solo la lama. Tu, Sho, non hai qualcosa, vero? Non hai più e la questa lancia. C'è anche... C'ha anche l'Elsa no. Ed è una spada corta, una short sword. L'abbiamo usata quella sull'isolotto astrale. L'altra era una longsword. È quella perfetta per Rixal. La no, no, faccio lo scambio. Gli va bene anche quella che ha adesso. Però si sì, potete scambiare no. No vabbè, ma tengo io la chance tanto di due spade lo stesso. Sì, ma la chance fa di 6 a long di 8 sì, non è che cambi tantissimo. Di fatto una spada corta più 1 che vedi che appunto risplende, comunica telepaticamente, poi se vuoi saperne di più bisogna attunarsi con essa. Più avanti mi attenuo, mi attenuo. Vabbè, ma ti odierà, scusa, se va contro il male. Ha capito, io la devo, la uso per uccidere agenti, è malvagia. Quindi... Beh, e questo... Non posso fare Finders Keepers e tenermela e poi ingannarla e far farle credere che io sia buono? Marco, ma tanto tu non la usi la spada, cioè... Eldritch Blast! Si vede tipo Marco con la spada che fa. E cosa facciamo adesso? Esatto. Come dici? Un Eldritch Blast! No, in realtà io ce l'ho una magia da usare in corpo a corpo. Sì, però sono molto squishy e non vado in corpo a corpo. Se tu vai in corpo a corpo abbiamo sbagliato qualcosa nel combattimento. E questo è il punto. O sei l'ultimo rimasto. Che significa che abbiamo sbagliato qualcosa in combattimento. Con Radi sono andato in corpo a corpo. Se, infatti, sei visto che fine abbiamo fatto. Va bene, dai, c'è qualcos'altro? Il tuo gufo vede altro? In quest'altra cella c'è un cadavere che sta marcendo. Ma è una faccina triste? Sì. Con gli occhi a X? È quella del cadavere. Ha una qualche armatura è un interessante. È un'armatura di pelle. Vez, la cosa che sarà marcita anche la pelle dell'armatura ormai. La cosa? È la cosa che hai lanciato all'inizio, quella di sì. Che trovi non morti le cose, è istantanea o dura un tot? Un round. Posso no, rifarla se vuoi. No. Ne ho 4 tipo. Perché cosa usi? Cioè devi spaccare dei... dei channel divinity o qualcosa di simile? No, no, no, posso farlo. Il numero di usi che dipende da quanto carisma. Ho 4 usi, ho fatto un po' di vuoi? Dove lo vuoi? No, magari quando ci avviciniamo di più alla porta... La stanza. All'altra. Tipo al centro, dove c'è tipo Garrosh adesso, potrei farlo. Sì, anche un po' più avanti. Va bene. Quasi al cancello. Dai, fateci questa passerella. Se ho capito bene, nell'altra stanza non c'è niente, ci sono solo dei morti e buona. Facendo fare appunto il giro al gufo, vedi un cadavere qua e le altre sono sommerse e quindi sotto il pelo dell'acqua non si vede altro. Cioè, le altre sopra il pelo dell'acqua non si vede altro, sotto chi lo sa. Queste sono per noi, ragazzi. Sì, esatto. C'è solo la spada dove c'è la spada, non c'è un cadavere o qualcosa. Pare proprio di sì. Abbiamo preso questa spada? Sì, l'ho presa. Vai, Marco, riesci a portarci fino al cancello? Faccio bidi body bibù e provo a... Ma nel frattempo nessuno ha pensato di... Faccio palla di fuoco. Di? Far tipo dare la spada legale buona, l'unico legale buono della compagnia. No, lui usa lo spadone. Ma io c'ha il suo spadone, cioè. Quello che noi abbiamo due che avrebbero bisogno, uno è Giulio e uno è Sceo, ma soprattutto Giulio. Ok, aspetta, tu hai detto che Vez aveva sentito due armi consacrate. Aveva sentito due? Ho detto che aveva sentito quella che ha Race. Ah, sono sopra, ok, avevo capito che ne ha sentito. No, avrò sentito anche cioè, a meno che non ne abbiate degli altri, ma la tua non è consacrata, è un'arma più due. Sì. Quale? Ben detto, ben detto. Spadone. Ben detto, ah, uno spadone. Ben detto. Boh, sì. E la lancia di Sceo? Non c'è più. La lancia più. Di Sceo. C'è la strada. Era la prima. Probabilmente andata. È in questo edificio. Sì, esatto. Lo so. Probabilmente, però magari fare. Sono tutte assieme. Cioè. Ah, magari in qui, ah, hai ragione. Dici, potrebbe... magari l'ha buttata qua giù. Magari però c'è non... il simbolo sacro di Vez. Chissà, forse quello lo percepisci. Vabbè, dai. Comunque, procedete verso lo stanzone. Dei e poi quando siamo tipo a un metro e mezzo dal cancello, Vez fa... Yes. La... Divine Sense. Va bene, vai. Allora, questa stanza è una stanza da cui vedete spuntare degli strumenti in tortura. Tipo qua in fondo vedete una vergine di ferro, delle ruote, delle la classica sala giochi. E infatti qua c'è una gioco per c'è un parapetto dal cui vedete appunto due comodi, due poltrone, due troni dove ci si può tranquillamente sedere e godersi lo spettacolo. Bene. Beh, non le avete mai fatte ste cose. Certo. In questa stanza appunto come nel corridoio il pelo dell'acqua è profondo a tre piedi. Quello che sta preparando Vez su al casetto è quello. Metterà poi le cose di tortura. Esatto. Il soffitto qui, quindi... È il master che non ci fanno salire. Esatto, è alto altri 17, per un totale quindi di 20. Questo appunto dal pavimento è alto 10 piedi, il balcone. No, scusate, e l'acqua quindi è a che piedi la profondità dell'acqua? Tre piedi come il corridoio. Okay. Ah, giusto, mentre Sfortuna faceva la sua passerella sono scattate altre due trappole che stavano in questo punto. Posso disegnare? No, beh, qui e qui. Tu Vardistran, quindi mi dicevi che faccio Divine Sense per capire meglio un po' quanti non morti ci sono. Yes, prego, lo facci. Ah, non è che devo dirti niente, è così. No, devi fare Divine Sense. Dio, dimmi. Il male ci dov'è? Ci sono dov'è? Sei non morti. E vedo Giulio. È tutto intorno. Esatto, a vedo te. Giulio, Sceo, Marco. A parte qui, dov'è? Circondato. Esatto. Oh, sento anche che sono dei celestiali, comunque. Non ci sono. Infatti, tu senti grande malvagità che ha in mano qualcosa di buono. E ci sono sei non morti in questa stanza, nei punti che vedi. Ok, e li vedo in attesa, semisommersi? No, li percepisci col divine sense, okay, sotto il pelo dell'acqua. Ah, vabbè, gli faccio presente sai solo agli che sono altri. Non morti, no? Sai solo che sono non morti. Non esatto, non so chi sono. Cioè, magari cosa sono vogliamo sei... fare? Magari sono sei Strad, ma non so. Lo facciamo la prossima volta con tutti questo scontro. Sì, secondo me sì. Inizio sessione. Dai, così abbiamo uno sconto inizio sessione, così arci. Giocarci. Così giocarci. Ci può stare, dai. Ci può stare, ci può stare. Se viene all'inizio. E dai, ci vuoi dire cosa fa la spada? In previsione? Allora, è divertente perché la spada... La spada delle battute sagaci. Esatto. Obbliga chi ce l'ha a bullizzare gli altri. Lo scopo della spada appunto è combattere il male e in più getta luce, luce intensa per 15 piedi e luce fioca per altri 15. E un personaggio legale buono per lo si attuna con la spada in un minuto e quando è... Vabbè, allora un minuto lo passo. Un legale buono. Ha detto legale buono. Sì, ma sai cos'è l'allineamento in fondo? Hai ragione. Io sono caotico, non capisco queste cose. Un personaggio che è in sintonia con la spada lo può utilizzare per lanciare l'incantesimo, il mantello del crociato, e una volta che usa questa proprietà non può essere usata fino alla prossima alba. E quando te lo rompi è un casino. Esatto. Ho capito. Quindi un legale buono la sfrutta di più perché lancia mantello del crociato. Ah, quello lo può lanciare chi è in sintonia. È in sintonia indipendentemente dall'allineamento. Un legale buono quindi... diventa in un minuto. Ah, ok, non me sti cazzi. Però non è specificato che chi non è di quell'allineamento non possa essere in sintonia. Cosa hai detto, Atlas? Voglio vedere cosa fa mantello del crociato. Ah, fa aumenta i danni degli alleati. Di un di 4 radiante. Però questo vuol dire che facciamo tutti i danni radianti. E ho utile, si somma, niente male. Che colpisce. Come si chiama in inglese? Crusader's Mantle. Ah, è carino quando fai tipo il chierico necromante, quindi hai un sacco di scheletrini che lanciano, non so, una freccia o una balestrata, e ad ognuno di questi sommano un di 4 in più e tiri un sacco. Fare un capobranco. Va bene, sì, è troppo forte, me lo devo togliere. Cioè, tra l'altro è la mia prima arma magica alla fine campagna. Ma tu combatti con due armi, Giulio, quindi ci sta in realtà. Giulio è io dico niente, noi che abbiamo già vissuto la nostra prima volta al piano di sopra è lì. Adesso appare strada e fa: ragazzi, avete visto un'arma? Mi serve per pulirmi i denti da questo fastidioso. Appare strada, guarda Vardistran, gli dice: glielo dici tu? Sai come funziona? Dici tu? Si guarda e fa: ah, grazie ragazzi. Infatti, quella si vede che c'era caduta mentre portavamo le altre. Poggiatela pur di là. Non la trovavo più, nonostante facesse luce. Infatti, tra l'altro mi fa molto. Va bene. Sì, in effetti, se giriamo in stealth, tipo tu hai un lampione. Vabbè, la tieni. Tipo quel tipo. Ci sarà un podero. Tipo se la infilzolo per vedere gli orchetti. Non fa più luce. Sì, potrebbe essere un'idea anche un podero, ma va bene. Ehi, tu, lupo mannaro, non ho utilità per te. Vieni, tieni la spada. Apri la bocca, fai a... oddio, se diventa un mangiaspade. Sì. Va bene, direi che quindi concludiamo così. Con questa prima esplorazione. Sì, questa preparazione allo scontro. Lo scontro dentro il castello di Strano. La preparazione dello scontro. Va bene, avete visto episodio 73 della Maledizione di Katta. Abbiamo cominciato a esplorare i dungeon del dungeon dei principale dei dungeon con il dungeon. Quindi aspetta, abbiamo esplorato altre tre stanze oggi, quindi siamo a 85, giusto? No, non cerchiamo di non fare uno stilicidio anche Katta ha invitato a. No, avete fatte 1 2 3 4 4. Beh, c'è la stanza 3, di Strad con l'organo, la stanza degli ospiti. Dei corridoi. Dai, ancora 84, rega. D'altronde, si chiama Corridoi e Draco. Si chiama Esplora Castel Ravenloft. Situato sulle montagne di Parovia. Ma qualcuno ha prenotato la guida? L'avete appena trovata. Abbiamo avuto anche l'altra volta la guida. L'altra volta sì, c'era la guida. Tu va vai bene. Lì e dici voglio fare il tour, arriva la guida. Va bene. Anche con la... Vabbè. Avete visto episodio 73 della maledizione di Katta, grazie per averci seguito, con Tycoons & Dragons e RBGDR continuano i nostri appuntamenti, la prossima settimana torniamo con Umbra Imperi, vero Giulio? Sì. Benissimo, e sicuramente avrete anche diversi articoli in settimana da darmi, visto che avete fatto una settimana di riposo. Va bene. Qui cosa abbiamo? Dei fiammiferi? Delle ditte? Ti ho perso, Vezzo, non ti sento. No, non ho sentito. Congratulazioni a Sceo. Va bene. Sceo. Va bene. Buonanotte a tutti. Ai prossimi episodi. Se trovate degli addominali in più di Arci, non vi preoccupate, tutto normale. Quindi alle prossime con Tycoons & Dragons e RDR. Continuate a seguirci anche sul podcast. Ciao a tutti. Buonanotte e buone volte. Buonanotte. Un classico. Ciao. Comunque eravamo tutti partiti. Sì, oggi andiamo contro Straz. E rega, sarà ancora un sì, infatti, non mi aspettavo il tour. Però ci sta. Devo recuperare la mia armatura. E poi è stato utile, abbiamo trovato un'arma magica. Cazzo, sai cosa sarebbe figo? Che il 31 ottobre finiamo la campagna. E così sono esattamente... Quanti anni? 14? Non lo so. Sono 3. È il 2018, no? Sì. Sembra tipo un'era fa. Sì, sembrano finire. Pandemia e mezzo, tra l'altro. Praticamente 3 livelli all'anno. Vabbè, non posso che peggiorare la media, non vorrei dire. Buonanotte. Buonanotte.